Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Speciale Bruxelles. Nessun paese può dirsi a rischio zero e i tragici fatti di questi tempi purtroppo ne sono la evidente dimostrazione. Il nemico è spesso dentro le porte delle nostre case. Nel nostro paese, in Europa, europei uccidono europei. Questo accade e per questo abbiamo affinato le nostre antenne sul territorio e ci siamo concentrati più che sull'azione, sulla pianificazione e sull'attività di vigilanza. Eccoci, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo era Alfano, ministro Alfano, che oggi ha parlato in questa riunione del Comitato di Sicurezza al Viminale, naturalmente dopo quello che è successo a Bruxelles. Ci siamo lasciati ieri, vi ricordate, con quella terribile notizia della strage delle ragazze in Spagna, di cui 7 italiane, e oggi ci siamo svegliati questa mattina con la notizia di un'altra strage, in questo caso ieri dovuta alla distrazione terribile, colpevole di un autista. Oggi invece una strage perpetrata da terroristi, da uomini che in giro per il mondo da tempo portano questa, in modo perseverante, questa cultura della morte, dell'orrore, del terrore, perché effettivamente questo ennesimo attentato ci ripiomba un po', no? Nel senso di paura, di insicurezza. Ci chiediamo com'è possibile che in un aeroporto così importante come quello di Bruxelles, che ormai è considerata la capitale d'Europa, così militarizzato, riescono a entrare degli attentatori, a farsi esplodere. Poi hanno trovato anche altre armi, altre bombe, un Kalashnikov. Com'è possibile? Ci dà questo senso di insicurezza, di impotenza. Ecco, questa sera sarà quella puntata di Effetto Notte, una puntata speciale, come avete sentito. Andrò avanti 3 ore insieme a voi fino a mezzanotte, quindi alle 21 a mezzanotte. Approfittate di questa sera per esprimere quali sono le vostre sensazioni, le vostre riflessioni, perché è proprio il senso di impotenza, di paura, di terrore, no? Che vogliono insinuare nelle nostre coscienze questi terroristi, così sparando nel mucchio, facendo stragi nel mucchio. Oltre alla pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre per voi, e oltre ai messaggi, SMS, il 349-238-6666, il numero lo ripeto, 349-238-6666, stasera eccezionalmente per 3 ore potete interagire chiamando in diretta, c'è il numero verde, quindi un numero gratuito, che è 800-24-0024, lo ripeto, 800-24-0024, quindi potete chiamare da subito per dire qual è la vostra sensazione e anche per fare le vostre domande, perché in questa puntata speciale appunto di 3 ore ci sarà la ricostruzione di questa mattina, di questa giornata terribile che ha colpito Bruxelles, il Belgio, ma anche l'Europa intera. Costanti aggiornamenti avremo, e poi l'analisi degli esperti, tanti esperti che ci saranno, di geopolitica, di terrorismo, di intelligence, quindi anche se volete fare le vostre domande. Poi conto appunto sulle vostre riflessioni per sentire anche un po' il clima di noi che siamo appunto in mezzo a queste cose. Il Belgio è vicino a noi, siamo dentro l'Europa, si dice da più tempo che è a rischio l'accordo di Schengen e la libera circolazione delle persone. Ma innanzitutto sentiamo in breve che cosa è successo questa mattina a Bruxelles. Mancano pochi minuti alle 8. L'area partenze al terminal A dell'aeroporto di Zaventem è piena di passeggeri. Un uomo urla qualcosa in arabo, poi le 2 esplosioni per mano di 2 o più kamikaze. Le persone si alzano in un mare di detriti, tra i cadaveri corrono verso le vie di fuga. In migliaia vengono fatti evacuare sulla pista, tra gli aerei abbandonati. Attorno le auto della polizia e i mezzi dei vigili del fuoco. Sullo sfondo le sirene delle ambulanze. Un'ora dopo, alle 9:15, l'altra notizia. Una bomba esplode in centro, alla fermata della metro Malbec, a 2 passi dalla sede delle istituzioni europee. La scena si ripete, centinaia di feriti escono dalla stazione, si sentono grida e pianti. Nei video si vede gente che percorre a piedi i tunnel sotterranei. L'esercito è in strada, bloccati treni, metro, cancellati i voli. Il livello di allerta è alzato a 4. A metà mattina arriva la conferma, sono attentati terroristici. Poco dopo l'ISIS rivendica. Quello che temevamo si è avverato, dice il premier belga Charles Michel. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi il procuratore belga ha detto che la rivendicazione dell'ISIS è comunque ancora da verificare, anche se c'è stata appunto questa rivendicazione. Sono stati 2 kamikaze all'aeroporto, il terzo è ricercato perché si pensa che possa essere fuggito, cioè Bruxelles, la capitale sotto shock, completamente paralizzata. Una terza bomba tra l'altro è stata fatta esplodere in aeroporto dagli artificieri, e l'Unione Europea con un comunicato, tutti i paesi, 28 paesi dell'Unione Europea, in un comunicato congiunto congiunto hanno espresso il loro cordoglio e la loro solidarietà al Belgio. Anche il resto d'Europa è naturalmente in una giornata di caos, di allarme, perché l'allerta è aumentata. Intanto saluto Arturo Varvelli, responsabile dell'osservatorio sul terrorismo dell'ISPI, grande esperto di terrorismo e di Libia. Buonasera Varvelli, tra l'altro lei è a Bruxelles oggi. Sì, ero a Bruxelles perché stamattina avevamo un convegno, non a caso su un tema importante come quello della radicalizzazione, con l'ISPI e naturalmente altre due think tank del Belgio. E come dire, ci siamo trovati catapultati dalla teoria alla realtà, naturalmente non avremmo assolutamente voluto vivere queste ore molto difficili. Allora, gli attentati si dice che siano legati in parte, non è ancora verificata questa cosa, alla cattura di Salah Abdeslam, no? Che era il ricercato numero uno in Europa per gli attentati di Parigi del 13 novembre. L'unico che si riteneva fosse sopravvissuto, invece forse anche un altro è ricercato, è stato arrestato nel fine settimana. Pare che avrebbe dovuto partecipare oggi a questi attentati. C'è, secondo lei, Varvelli, un filo che lega gli attentati di Parigi e quindi anche coloro che hanno partecipato agli attentati di oggi? Questo attualmente è difficile dirlo, sembrerebbe di sì dalle dinamiche, dai periodi, da quello che sta succedendo, però non è detto. Se così fosse, se fosse così, naturalmente ci troveremmo davanti a un network molto esteso. E questa possibilità che facciano parte dello stesso network è data anche un pochino dalla latitanza, dal periodo di latitanza di Salah. Abbiamo visto che si è rifugiato per 4 mesi sostanzialmente nel quartiere dove ha vissuto e ha abitato. Molenbeek, quindi qualcuno l'avrà protetto, insomma. In zone, no? Che conosceva bene. Quindi c'è un alto grado, diciamo, perlomeno di omertà. Che è una cosa tutto sommato che conosciamo noi bene in Italia, con aree che sono controllate da malefittosi o naturalmente da criminalità organizzata. Naturalmente questo può essere dettato da una certa compiacenza verso gli obiettivi dello Stato Islamico, ma anche da una sorta di terrore che naturalmente denunciare qualcuno dello Stato Islamico può comportare verso se stesso e i propri familiari. Quindi c'è da indagare in questo ambiente. Abbiamo visto che i legami familiari sono molto importanti in questi casi e quindi bisogna capire se si tratta di un network che ha qualche legame ma è qualcosa di diverso, o se si tratta invece di un'estensione dello stesso network che ha colpito a Parigi. Quindi questa è la sua impressione, così, per il momento, dei pochi elementi che si hanno di questo attentato di Bruxelles, questo duplice attentato all'aeroporto e alla metropolitana? Sì, è questa l'impressione. Bisogna anche naturalmente capire se questo attentato è stato in qualche maniera improvvisato, e non mi pare naturalmente, perché si tratta di un attacco multiplo coordinato con la preparazione di esplosivi e di bombe molto complesse di grande importanza, diciamo, e quindi immagino che in 3 giorni non si possa ideare e mettere sul terreno un attentato simile. Quindi probabilmente si stava già ideando e progettando in precedenza, e poi è probabile, o comunque rimane possibile, che sia stato accelerato, che i tempi siano stati accelerati dopo la cattura di Salah. Varvelli, la lascio andare, volevo solo sapere, visto che è a Bruxelles, in che situazione si trova lei, che cosa ha visto nella giornata di oggi? Beh, stamattina sono uscito praticamente per recarmi al convegno e sostanzialmente sapevamo solamente dell'attentato all'aeroporto, e c'era naturalmente sgomento e anche preoccupazione per quelli che sarebbero stati i blocchi del traffico aereo e dei trasporti. Poi quando sono arrivato sostanzialmente dove c'era il convegno, in pieno centro quartiere europeo, sostanzialmente ho incontrato persone che provenivano dalla metropolitana scioccate, piangendo, che telefonavano a casa per avvertire che stavano bene e che ci dicevano a loro volta di non avvicinarci verso la metropolitana. Quindi sono quelle scene che si vedono sostanzialmente nei reportage giornalistici e nella cronaca di quando succedono questi casi, e però viverla in diretta fa certamente un un altro effetto ed è certamente scioccante. Poi durante la giornata è proseguita un po' in un clima surreale, nel quale certamente i luoghi che sono molto frequentati, come quelli delle istituzioni, come i bar del centro, i ristoranti, sostanzialmente i luoghi di lavoro erano frequentati dalla metà o un terzo delle persone, perché molti naturalmente sono stati a casa o sono stati chiusi in ufficio e nessuno usciva. Le poche persone che giravano si guardavano un po' in giro con un'aria un po' surreale e spaurita, e sostanzialmente anche stasera il traffico tutto composto di persone in macchina, perché la metropolitana è ancora bloccata, eccetera, non era comunque molto non c'era molto traffico, e sommato ancora una città che sta cercando di ritrovare una sua normalità. Grazie Arturo Varvelli. Grazie, buon proseguimento. Insomma, si spera. Prima di aggiornare chi sta viaggiando, volevo sentire il primo ascoltatore, chiamato all'800240024, perché vi dicevo, questa sera, oltre ai soliti canali vostri per interagire con Effetto Note, che sono la pagina Facebook del programma, il 349-238-6666 per gli sms, c'è anche il numero verde, il numero gratuito 800240024. Gianluca da Milano, buonasera. Sì. Gianluca. Sì, buonasera. Prego. Buonasera. Il mio intervento in questa trasmissione vuole solo dire che siamo naturalmente tutti rammaricati per quello che sta succedendo nel mondo, in Europa in modo particolare, però il problema, dobbiamo anche capire perché succedono queste cose. Sicuramente queste persone sono tutti delinquenti e bisogna riuscire a fermarli, questo senza dubbio. Però il problema nasce da molto lontano, il problema nasce da quello che è la nostra vita che viviamo in Europa, nei paesi occidentali, negli Stati Uniti, è una vita molto agiata nel nostro benessere, e questi squilibri nel mondo e purtroppo hanno generato negli anni, naturalmente non in pochi anni, ma negli anni, queste problematiche. Non voglio giustificare gli interventi terroristici che stanno avvenendo in Europa in questi anni, questo no. Però dobbiamo anche capire perché succedono queste cose, e secondo me succedono queste cose perché c'è troppa gente che sta male e vive male nel mondo, e solo in pochi viviamo in un certo modo. Gianluca, tu parli delle disuguaglianze che certamente hanno creato anche, per esempio, quello che sta succedendo con i flussi di migranti, con questa crisi umanitaria. Direi che per altri versi attaccarsi a un'ideologia, certo, magari quando non si ha null'altro da attaccarsi, però in certi casi può essere pericoloso anche giustificare. Ci sono intanto al telefono Alessandro da Verona, Raffaella da Milano, ai quali chiedo di avere un po' di pazienza. Adesso vi ricordo quali sono i titoli principali della giornata e poi ci sono gli aggiornamenti. Bruxelles, capitale d'Europa, ancora nel caos dopo gli attentati all'aeroporto. La metropolitana, 34 i morti e oltre 200 i feriti, perquisizioni in tutto il Belgio. Prosegue la caccia all'uomo, altri tre terroristi pronti a colpire. La polizia diffonde le foto di tre attentatori, due forse morti, cresce l'allerta in tutta l'Europa. La strage di ragazze in Spagna, le salme di tre delle sette studentesse italiane morte nell'incidente del Pullman tornano stasera, giovedì sarà ultimato il rientro. Migranti, due profughi si danno fuoco nel campo greco di Idomeni per protestare contro la chiusura delle frontiere. Cuba, continua la visita del presidente americano Obama, oggi l'incontro con un gruppo di dissidenti. Monte dei Paschi, la procura dispone la riesumazione della salma di David Rossi, ex capo area comunicazione di banca, della banca, morto il 6 marzo 2013. Moda, Armani dice definitivamente addio alle pellicce animali dalla prossima stagione invernale. E adesso c'è la nostra collega Roberta Pellegatta che ci aggiorna sulle ultime novità, perché man mano vengono fuori notizie appunto di altro materiale, armi o esplosivo trovato in altre parti della città o del Belgio attraverso le perquisizioni. Roberta, quali sono gli aggiornamenti? Allora, le ultimissime notizie in realtà parlano di arresti in Germania. La polizia tedesca infatti ha arrestato tre kosovari sospettati di legami con un gruppo terroristico e provenienti da Bruxelles a bordo di un'auto registrata in Belgio sull'autostrada tra Monaco e Salisburgo. Lo riferiscono i media tedeschi, secondo i quali tuttavia non è ancora chiaro se ci siano legami con gli attentati di Bruxelles, ma arresti sono scattati anche in Turchia, anche in Olanda, dove la polizia ad Amsterdam ha arrestato tre persone nella stazione centrale. Anche in questo caso non c'è prova di legami con Bruxelles. E in Belgio domani a mezzogiorno si terrà un minuto di silenzio in tutto il paese in omaggio alle 34 vittime e 136 feriti, alcuni dei quali molto gravi, e proprio intorno ai feriti cominciano a trapelare anche alcune notizie. Con certezza ci sono almeno 8 francesi, 3 dei quali gravi, 3 missionari mormoni dello Utah, un militare americano e la sua famiglia, e c'è anche una buona notizia perché sono stati tutti dimessi dall'ospedale i 3 feriti italiani: Chiara Burla, una ragazza di Varallo Sesia, Marco Semenzato, un architetto veneto da tempo in Belgio, e Michele Venetico, che è un giovane dipendente dell'aeroporto di Bruxelles, originario della Sicilia. Ma a Bruxelles l'allarme è tutt'altro che rientrato. Come dicevi, altri esplosivi sono stati rinvenuti dagli artificieri nell'aeroporto di Zaventem, e una bomba e una bandiera dell'ISIS sono stati trovati durante una perquisizione effettuata nel quartiere di Scharbeck. Adesso il ricercato numero uno è quest'uomo con la giacca color crema e il cappello, che si vede in una foto scattata all'aeroporto e diffusa dalla polizia. Accanto a lui nella foto 2 uomini con un guanto nero, che dovrebbero essere i kamikaze dell'aeroporto che si sono fatti esplodere. E per il momento è tutto. Grazie Roberta Pellegatta. Intanto vedevo adesso, proprio diciamo relativamente al tipo di attentato e di materiale che è stato utilizzato, esplosivo, che un medico di un ospedale di Bruxelles dice che purtroppo in sala operatoria, abbiamo detto che sono 32 morti, 34 morti e oltre 200 feriti, in sala operatoria abbiamo dovuto fare molte amputazioni in seguito ai danni gravi provocati dai chiodi, dai pezzi di vetro contenuti negli ordigni. Quindi quando si parla di feriti ci si immagina, se non sono gravissimi, che tutt'al più se la possano cavare con poco, invece qui addirittura si parla di diversi feriti che vengono amputati. Prima di Maura Bertanzon, che ci sta aggiornando in questi giorni da Bruxelles, vorrei sentire un'altra delle vostre telefonate, che stanno arrivando tantissime all'800 24 00 24. Raffaella da Milano. Sì, buonasera a tutti. Senta, io volevo dire questo, cioè al di là della costernazione che va da sé, insomma, non c'è molto da dire, da aggiungere, anzi ogni tanto un po' di retorica anche stucchevole da parte di qualcuno. Penso che nelle prossime ore sentiremo le solite cose, però proprio per questa ragione io mi domando, ma cosa dobbiamo aspettare ancora perché si riesca a lavorare assieme? Almeno noi europei, e non solo noi europei, ma anche con altri paesi che sono colpiti dallo stesso. Stai parlando, Raffaella, della famosa intelligence unica, ma che si sta da più tempo invocando. Ma esatto, cioè, e poi va bene anche polizia ordinaria con gli stessi sistemi, con gli stessi concetti, gli stessi, cioè mi sembrava di aver percepito oggi che, cioè, sono arrivati a portare la bomba fino al banco, non so se di quale compagnia aerea americana, mi sembra. Sì. Ma voglio dire, fuori dalla porta qualcosa prima, no? Cioè non c'è bisogno di passare dal gate per portare la bomba. Cioè, ci sono dettagli. No, hai ragione su questo, Raffaella. Cioè, infatti, ci sono poi delle cose che sembrano quasi banali. Cercheremo, no? Ma di capire come sono arrivati dentro, perché è vero che poi solo quando c'è il check-in, l'imbarco, eccetera, la ti controllano, eccetera. Ma prima, evidentemente. Ma comunque, questa cosa dell'intelligence è una cosa che si ripete da tempo, Raffaella, e poi ne parleremo con gli analisti più tardi. Ti ringrazio, Raffaella, da Milano. Ci sono molte telefonate. Intanto dobbiamo sentire la nostra Maura Bertanzon direttamente da Bruxelles. Maura, quali aggiornamenti ci sono? Vedevo ci sono degli arresti, dei fermati, ma altri in fuga. Che cosa dice la procura belga? Penso di poter confermare le stesse notizie che arrivano a voi, perché io poi nel frattempo sono arrivata fino in Place de la Bourse, che è uno dei punti centrali del centro storico di Bruxelles, dove la gente si sta radunando per in segno di solidarietà, un po' come era successo in Place de la République a Parigi. Quindi il mio racconto in questo momento è da qui, dei sentimenti della gente che sta arrivando, sono sentimenti di voler esprimere solidarietà, di esprimono quello che aveva detto il re, di sentirsi ancora più uniti come città, come paese, ma c'è al tempo stesso la rabbia per quanto è accaduto, e anche la rabbia per non riuscire a capire qualcuno che rifiuta la vita, appunto, e si fa esplodere, il cui unico scopo è farsi esplodere e causare, oppure causare del male ad altre persone. C'è un'enorme striscione, è scritto GSI Bruxelles, è scritto anche in fiammingo, le due lingue principali del Belgio, molte candele, molti slogan, messaggi scritti con il gesso sulle mattonelle della piazza, la gente qui continua ad arrivare appunto per dimostrare la sua solidarietà in questo momento. Grazie Mauro Bertanzon. Io, se tu sei disponibile, dopo non so quanto starai in piazza, ma comunque insomma sei sempre lì a Bruxelles, magari ci aggiorniamo più tardi, ti richiamiamo Maura, grazie intanto del tuo lavoro. Va bene, ciao. Ciao Maura. Ancora le vostre telefonate, i vostri interventi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma stasera, visto che è aperto il numero verde per voi e andrò avanti con voi sino a mezzanotte, quindi approfittatene per dire quali sono le vostre impressioni, anche le vostre domande. Cercherò poi di evadere con gli ospiti, ma non è detto che arrivino delle risposte, chiaramente, altrimenti diciamo il tutto sarebbe già risolto da tempo. 800 24 00 24, questo è il numero verde. Alessandro da Verona. Sì, buonasera. Buonasera Alessandro. Buonasera, sentendo questi attentati mi domandavo proprio di stare, cioè, non riesco a capire il fine, perché bene o male questi attentati crescono la rabbia contro l'ISIS. Alessandro, scusami, non riesco molto bene a sentirti, quindi immagino anche gli altri. Cerca di parlare bene nel telefono, non so se stai viaggiando forse. Mi senti? Sì. No, sono fermo. Mi sente? Sì, un po' meglio. No, mi chiedevo l'utilità di chi li fa questi attentati, questo scopo, perché sinceramente questo fa aumentare la rabbia contro di loro, quindi scatenerebbero di più le nazioni contro l'ISIS. Cioè, non riesco a capire proprio, se mi sembra un po' una strategia, non so, una volta eravamo i talebani, adesso sono più talebani. Alessandro, ho capito, per sintetizzare, insomma, dici non fanno altro in questo modo che fomentare ulteriore rabbia, quindi a che cosa gli giova? Tra l'altro, più tardi dovremo raggiungere anche uno psichiatra e scrittore che si occupa da tempo della psicologia, della psiche di mafiosi, di terroristi, e quindi anche in questo caso chiederemo appunto come riesce a far presa questa ideologia così della distruzione, della devastazione, della morte su tanti uomini, su tanti giovani uomini. Prima della pausa, Mauro da Treviso. Sì, Mauro, salve. Prego. Salve. Niente, volevo fare qualche passo indietro, no? E ragionare su quel arresto dell'altro giorno del Beslan, no? Di Salah Abdeslam, sì, a Bruxelles. Salah Abdeslam, esatto. Ma mi è sembrato quanto bizzarro, cioè un terrorista abituato a sparare, uccidere, con Kalashnikov in casa, detonatori e tutto, esce tranquillamente dal portone di casa, vestito in tuta da jogging, si mette a corricchiare fuori, sapendo benissimo che ci sono i poliziotti lì sotto, no? Io penso che questo fosse tutto quanto un gioco già prefatto, prestampato, previsto, perché lui si sia fatto arrestare per distrarre un po' tutto l'ambiente da quello che sarebbe successo oggi. Ma Mauro, se si fosse voluto far prendere, diciamo, l'avrebbe fatto molto prima, perché queste perquisizioni a Bruxelles, poi ci andava di mezzo anche la stessa nomea delle forze dell'ordine belghe, l'avrebbe fatto prima. È vero che quando è stato preso poi avrebbe detto, secondo il suo avvocato, meno male, non ce la facevo più con questa latitanza. Però, insomma, non lo so se è avvenuto così facilmente. Sembra che sia stato un blitz, una grande operazione. Grazie Mauro. Ancora prima di questa prossima pausa c'è Antonio da Novara, sempre all'800 24 00 24, numero verde. Antonio? Pronto? Pronto? Ecco, no, sentivo tutto un tramestio. Prego Antonio. Buonasera Antonio. Sì, io chiamo da Novara. Niente, volevo esprimere il mio pensiero per quanto riguarda quello che è successo oggi, ma volevo dire che ormai è arrivato il tempo che tutte le polizie, i governi europei si mettono sotto un unico controllo, perché non abbiamo più sicurezza, non c'è più da fidarsi di tutto quello che sta succedendo. Cioè, effettivamente loro ormai sono incontrollabili, ci colpiscono quando vogliono e come vogliono. Cioè, quindi io faccio un appello ai governi europei perché si mettono insieme a costituire un gruppo, qualcosa che effettivamente tenga sotto controllo tutta la situazione a livello europeo, perché veramente con oggi si è arrivato al limite. Antonio, come si diceva prima, questo auspicio di una intelligence unica per superare i nazionalismi dei vari stati europei, anche le gelosie, no? Ognuno si vuole tenere le notizie riservate per sé, il proprio lavoro dell'intelligence che deve arrivare prima, deve arrivare dopo. Effettivamente l'Europa ha dimostrato più volte negli ultimi tempi di non riuscire ad avere una visione comune. Poi ne parleremo ancora di questo, e diceva giustamente Antonio questo senso di insicurezza. C'era prima il ministro Gentiloni, vedevo un'agenzia che aveva detto questo è il terrorismo della porta accanto, perché una volta no, c'erano degli obiettivi particolari, adesso succede nelle nostre piazze, nelle nostre strade, nelle nostre metropolitane. Ancora molte telefonate, vedo all'800 24 0024, riprendo ancora una, poi dobbiamo fare per forza questa pausa, dico di no dalla regia, però c'è Marino da Pescara? Sì, buonasera. Buonasera Marino. Salve, no, io volevo dire due cose, sì. Riflettendo su quello che è successo, voi non sapete, o forse non lo so, nemmeno io lo sapevo fino a questa mattina, sono rimasto di stucco quando ho preso la notizia, che tra l'altro è molto fondata, secondo la quale in Belgio, sì, per via di una vecchia legge, non si possono fare perquisizioni dopo il tramonto. Dalle 23 alle 6 del mattino. Io ho sentito addirittura dopo il tramonto, sì, è vero, è una cosa assurda. È una cosa ridicola, cioè quando si sa che in questo lasso di tempo è l'orario migliore per poter trovare queste persone, presumibilmente, a casa. Quindi questa è una vecchia legge che prima di tutto andrebbe rivista. Poi la risposta dell'intelligence belga, cioè che sicuramente non è stata all'altezza, perché la notizia che ci fosse la possibilità di un attentato anche imminente, tutti quanti continuano a dire, io oggi ho sentito diversi opinionisti, uomini che vivono per motivi di sicurezza, di lavoro, di politica, anche per i parlamentari che sono lì a Lussemburgo, che dice che era risaputo che prima o poi sarebbe successo qualcosa di importante in Belgio e a Lussemburgo nello specifico. Poi per quanto riguarda il discorso del coordinamento delle forze di polizia, noi stiamo parlando del coordinamento delle forze di polizia in ambito europeo, dell'intelligence, no? Ma ci rendiamo conto che in Italia ancora non c'è nemmeno tra queste forze di polizia un coordinamento, cioè c'è ancora la polizia che fa le indagini per conto proprio senza che i carabinieri è un po' migliorato rispetto al passato, ma è vero, hai ragione, già nel piccolo nella stessa nazione succede questo, figuriamoci a livello europeo. Breaking news. Sì, è una notizia di pochissimo fa, l'ha data la BBC, è una breaking news, parla di due esplosioni all'aeroporto di Bruxelles. Poco prima delle 8, sicuramente una delle due bombe è esplosa al check-in desk dell'American Airlines. La paura e il sangue, purtroppo, lo vediamo dalle immagini, già dai primi scatti che arrivano, dal terrore nei volti di nuovo dei turisti, dei viaggiatori, non dimentichiamolo, dei molti anche che raggiungono gli uffici o che vanno e vengono dagli uffici appunto dell'Unione Europea. Roberta Giordano sempre con voi in questa puntata speciale di Effetto Notte, fino a mezzanotte siamo insieme. Vi volevo far sentire però questo insieme di voci qui di Radio 24, perché la nostra radio ha seguito quello che è successo a Bruxelles, il duplice attentato, sin da questa mattina, appena è successo con lunghe dirette. Vi voglio far sentire adesso, tra poco parleremo con Diego Burla, che è padre di uno degli italiani feriti, di una ragazza di 24 anni, Chiara, che è della provincia di Vercelli, che era a Bruxelles e per fortuna, insomma, seppure ferita in metropolitana, è riuscita a salvarsi. Però vi faccio presentare prima Giancarlo Abete, vicepresidente dell'UEFA, il massimo organo del calcio in Europa, intervistato oggi da Carlo Genta. Il rischio porte chiuse esiste all'europeo? Ma il rischio da un punto di vista tecnico può esistere sempre. Perché? Perché parliamo di una competizione in cui l'evento deve avvenire, nel senso che se parlassimo di partite tra virgolette rinviabili o di eventi amichevole eccetera o una partita ufficiale che può essere rinviata ad altra data, evidentemente questa fattispecie è una fattispecie che non si presenterebbe. Nel momento in cui lei ha un torneo, ovviamente il torneo sconta il fatto che determinate date sono ognuna funzionale al risultato finale del torneo, altrimenti il torneo non può andare avanti. Però mi sembra che oggi le emergenze, le urgenze, le priorità siano diverse. Stiamo parlando comunque di eventi che già hanno avuto un impatto negativo sullo stesso europeo, perché ovviamente c'è una maggiore percezione di rischio, c'è un minore entusiasmo a partecipare da parte di chi voleva e vorrebbe partecipare con uno spirito positivo, però parliamo comunque di partite programmate a giugno, mentre oggi stiamo vivendo un'emergenza ad horas. Diego Burla, buonasera. Buonasera. Senta, quindi sua figlia Chiara è lì a Bruxelles, è tra i feriti italiani, però la chiamata ha detto che sta piuttosto bene, insomma, al di là del grande spavento del fatto che si trovi in ospedale. No, non si trova in ospedale, è stata dimessa dopo le visite di trattamento a Luna, adesso vediamo, si trova in un appartamento con compagnia, vediamo amiche. Sì, è stata ferita lievemente e diciamo che adesso sta bene, comunque fortunatamente. Dov'era lei? All'aeroporto o alla fermata della metropolitana? No, a Muhlenbeck, era proprio sul treno, praticamente la carrozza adiacente, la corsa vicina a quella dove è esplosa la bomba. Che cosa le ha raccontato quando l'ha chiamata? Ma è raccontato, vediamo che ha sentito un enorme esplosione, vetri e porte, vediamo del metro, vediamo che volavano, e una porta di arrivata, vediamo addosso, colpendola davanti, vediamo al torace, e si è sentita appunto poi accecare in faccia, vediamo da oggetti, piccole scaglie di vetro, di non so che cosa, insomma, si è sentita quindi male. Fortunatamente è riuscita, vediamo, a fuggire, a scappare, a scendere del treno con altri, e sono riusciti a uscire fuori dal metro, ecco. Senta, e come mai Chiara era lì a Bruxelles? Studia? Sì, sta facendo, aveva finito, era l'ultimo giorno di uno stage di danza e le lezioni iniziavano alle 10 e aveva preso il metro per arrivare, vediamo, in tempo per la lezione, quando è successo. Quindi dovrebbe rientrare in Italia, cioè l'intenzione era quella di tornare a breve in Italia? Era già prenotata per domani, rientrata in Italia, però adesso è tutto sospeso, come ben sa, gli aeroporti sono chiusi, domani è chiuso e giovedì non si sa, quindi vediamo quando potrà rientrare, vediamo in Italia. Insomma. Comunque, insomma, benché in una situazione terribile, almeno Chiara sta bene, sa che sta bene e rientrerà presto in Italia. Guardi, fortunatamente è stato, non so cosa dire, ma fortunatamente sta bene. Adesso grande spavento, ma insomma... Uno spavento adesso enorme, una paura, uno spavento, lo shock arriva adesso, arriva dopo. Dolori anche, come della botta subita, si sa che non subito vengono, ma si manifestano, si sente male un po' da tutte le parti, assieme alla paura, allo shock. Questo è inevitabile, purtroppo, però almeno diciamo... guardi, mi spiace molto, vediamo per le altre persone coinvolte tutto, ma è... almeno per lei il peggio è alle spalle. Esatto. Diego Burla, io la ringrazio, ci saluti allora sua figlia Chiara. Grazie, buona continuazione. Speciale, sì, di effetto notte fino a mezzanotte sugli attentati di Bruxelles, con gli analisti che sentiamo tra poco. Abbiamo sentito all'inizio l'esperto di terrorismo, uno dei massimi esperti di Libia, perché anche da lì, insomma, è un bel vivaio, Arturo Varvelli. Poi sentiremo anche molti altri esperti. Le vostre telefonate stanno arrivando moltissime all'800 24 00 24. Vi chiedo di avere pazienza, darò comunque la precedenza a chi chiama rispetto a chi scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che di solito è il canale privilegiato per chi interagisce qui con Effetto Notte, o gli sms al 349 238 6666. Tra l'altro è arrivata una notizia di poco fa: sarebbe stato evacuato questa sera, dopo una telefonata che segnalava una bomba all'interno, il centro commerciale Carrefour a Massa, in provincia di Massa Carrara. Tra l'altro la struttura è vicino a un deposito di pallet dove è scoppiato un incendio, però sembrerebbe che i due episodi non siano collegati. Non so se questa diventa appunto un'epidemia di paura, oppure se effettivamente il rischio c'è, o è stato qualche mitomane che certamente non ha scelto il momento giusto. Tra l'altro non è mai il momento giusto. Vi ricordo brevemente quali sono le altre notizie della giornata, che sono appunto: oltre a Bruxelles, colpita al cuore l'Europa, l'ISIS colpisce con due kamikaze all'aeroporto, bombe nella metro, almeno 34 i morti e oltre 250 i feriti. Continua la caccia all'uomo. La polizia belga diffonde le foto di tre attentatori, due forse sono morti. Si descrive l'inferno, le urla, il sangue ovunque oggi tra l'aeroporto principale Zaventem di Bruxelles e la fermata Malbec della metropolitana. Attacco alla democrazia, l'Unione Europea blinda le frontiere, i leader cercano unità anche con un comunicato congiunto. Poi c'è stato il vertice al Viminale, Renzi dice né sciacalli né colombe, Salvini all'attacco, il presidente Mattarella dice in gioco la nostra libertà. Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore, ciao Alberto. Buonasera a tutti voi. Alberto, tu tante volte ci hai aiutato un po' a, diciamo, a ricostruire, a ricucire le fila, a capire quali sono le origini, insomma, di questi movimenti integralisti islamici, ricordandoci che dietro la loro proliferazione e anche insomma, il loro nutrimento ci sono, c'è la responsabilità di molti paesi occidentali e anche di diverse potenze arabe. E non c'è dubbio, innanzitutto c'è una strategia dell'ISIS che prima ha saldato la guerra in Iraq e il terrorismo sunnita in Iraq con la guerra in Siria e poi con gli attentati in Europa ha saldato la guerra della Siria e dell'Iraq con l'Europa, quindi ne ha fatto una sorta di unico campo di battaglia utilizzando questi jihadisti che avevano passato le frontiere della Turchia, migliaia in questi anni, molti europei che sono andati a combattere dall'altra parte e poi sono stati addestrati e sono tornati da noi come la risacca di questo conflitto a fare i terroristi, perché questa è più o meno la sintesi della vicenda. Poi se noi andiamo a vedere le radici di tutto questo e ci si chiede ma come si combatte questo terrorismo si combatte con l'intelligence, cercando di evitare che intere periferie delle città come Parigi o Bruxelles cadano in mano o comunque sotto l'influenza degli islamisti radicali. E poi soprattutto si combatte cercando di fare una politica estera migliore di quanto non sia stata fatta oggi, cioè di connivenza e di complicità non solo con i paesi che hanno finanziato il jihadismo, ma anche con gli stessi jihadisti cui noi abbiamo fatto credere, gli Stati Uniti, la Francia e l'Occidente, che avremmo abbattuto con loro il regime di Bashar Assad, cosa che invece non abbiamo fatto e per questo oggi si vendicano di noi. Dice che questa cosa ha un'influenza forte, il fatto della promessa di abbattere Assad, di non averlo fatto e quindi c'è... Perché Alberto? Era così importante? È un'influenza forte, sì, caspita. La Francia e gli Stati Uniti nel settembre 2013 avevano progettato di bombardare Assad, l'avevano detto a tutti gli angoli. Ma perché gli integralisti si vendicano perché questo non è avvenuto? Ma perché li abbiamo usati, ragazzi? Perché? Perché la Turchia che cosa ha fatto? Ha fatto passare questi, tra l'altro, sull'autostrada della Jihad con l'appoggio degli Stati Uniti, che dicevano di appoggiare un'opposizione moderata che era assolutamente inesistente. Li abbiamo intervistati, fotografati, li abbiamo visti tutti e abbiamo pensato già nel 2011-2012 che stavano creando un Afghanistan alle porte dell'Europa. E questo si è puntualmente verificato, perché questo era successo anche nel 79 in Afghanistan. Finanziamo i mujahideen per abbattere l'Unione Sovietica e questa volta abbiamo finanziato i jihadisti per abbattere il regime di Bashar Assad e mettere con le spalle al muro il regime sciita di Baghdad e anche quello iraniano, ovviamente. Un circolo vizioso, insomma, che si ripete, non si impara mai dal passato, così no. Come negli altri aspetti anche in questo, purtroppo. No, Roberto, purtroppo no. Purtroppo non si impara. Ma non è che non si vuole imparare, perché gli interessi, come certo. Tu dicevi giustamente prima, sono talmente forti che fanno paura. Cioè, gli Stati Uniti hanno sempre appoggiato un regime retrogrado, wahhabita ed estremista come quello dell'Arabia Saudita, che i jihadisti li ha sempre appoggiati. E la Francia la settimana scorsa ha dato la Legion d'Honneur a Mohamed bin Nayef solo perché ha acquistato 12 miliardi di Rafale e di impianti nucleari francesi. E questa gente qui che cosa ha fatto in questi anni? Ha sostenuto i movimenti jihadisti, poi li ha utilizzati, li ha manovrati e a un certo punto sono stati anche scaricati. E questi sono i risultati. Chiarissimo. Grazie Alberto Negri, inviato grazie speciale sul 24. Buona serata. Ciao Alberto. Daniele da Salerno all'800240024, grazie per la pazienza Daniele, sono tante le telefonate e anche gli interventi. Prego. Buonasera a tutti. Io mi sono sempre chiesto, ma queste persone che si fanno saltare, ma non si rendono conto effettivamente che uccidono delle persone? Guardando i vari speciali sulle TV e i vari filmati su YouTube, mi sono reso conto che per loro è come se fosse un gioco. Pronto? E beh, soprattutto diciamo per gli uomini che aderiscono alla fede islamica integralista, sono convinti di trovare poi nell'aldilà una serie di vergini, trovare un paradiso straordinario e quindi, insomma, convinti di questo, diciamo, spargono morte, sangue, distruzione intorno a loro. Daniele, ti ringrazio. C'è poi Pino da Cagliari. Pino, abbiamo però 40 secondi. Ce la fai, Pino? Scusami, eh. Ma penso di sì, ci provo. Quello che volevo dire praticamente è la volontà, capito? È la volontà che manca, perché volendo fermare questa gente, cioè ovviamente le strategie sono tantissime, con gli interventi di vario tipo, le nazioni come America, Russia, Europa, potevano farlo anche in 5 minuti, in una settimana se volessero, ma perché non accade questo? Quindi la colpa, noi assistiamo a tutto questo, a questi spaccieri, questo macello, perché? Perché comunque non c'è la volontà di fermare Pino, a causa degli interessi. Ce lo spiegava prima appunto Alberto Negri, purtroppo, di questo circolo vizioso senza fine. Pino, grazie della pazienza. Pino da Cagliari, 800 24 00 24. Today is a difficult day. Nous sommes devant une menace globale qui exige d'y répondre globalement. La France et la Belgique sont liées par l'horreur que nous venons une fois encore de partager. Non è dunque il tempo degli sciacalli, ma non è neanche il tempo delle colombe. Ci vuole un patto europeo, un patto per la libertà e la sicurezza. I terroristi puntano a toglierci la libertà perché sanno che la libertà è ciò che costituisce il marchio di fabbrica dell'Europa. Vada fino in fondo, allora, stavolta l'Unione Europea. Chi si illude oggi urlando "chiudiamo le frontiere" non sa, non si rende conto del fatto che molto spesso i nostri nemici sono già dentro le nostre città. Il nemico è spesso dentro le porte delle nostre case, nel nostro paese, in Europa. Europei uccidono europei. Siamo sempre qui, Roberta Giordano, con voi in questo lungo speciale di Effetto Notte, dalle 21 fino a mezzanotte. Avete sentito un po' di voci, quella di Hollande che oggi ha parlato, naturalmente parlando della solidarietà, dell'unità tra Belgio e Francia, uniti dal fatto di essere stati ultimamente colpiti così duramente dal terrorismo. Avete sentito Renzi, che cosa diceva? Che la libertà è il marchio di fabbrica dell'Europa, di un'Europa unita che deve rafforzarsi, che deve fare un patto, anche perché dicevamo per questa intelligence che deve essere unificata in modo da collaborare, da un coordinamento centrale ci deve essere. E poi il ministro Alfano che ha ribadito, il ministro ce l'abbiamo praticamente, i terroristi ce l'abbiamo praticamente in casa, in Europa, nel cuore insomma del nostro continente in cui siamo vissuti tranquillamente fino a qualche tempo fa, dalla seconda guerra mondiale in poi. Allora ricominciamo con i collegamenti e anche con le vostre telefonate. Stanno arrivando un sacco di messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, vorrei provare a leggerne giusto intanto qualcuno. Paolo, che dice: dobbiamo imparare dagli israeliani, ogni volta che subiscono un attentato lavano il sangue, ricostruiscono il locale distrutto, riaprono i ristoranti e tornano a divertirsi, e così si vince. Stefano: purtroppo l'Unione Europea non è stata capace di adottare adeguate misure per far fronte alla sicurezza interna, né tantomeno a quella ai suoi confini. Dario da Milano, che tanto che attende all'800 24 00 24, il numero verde, sono aperti i microfoni per voi questa sera, se avete un po' di pazienza. Dario. Sì. Prego. Beh, niente, veramente sconcertante sentire un Presidente del Consiglio e altri personaggi. Qui ho paura che ci siano degli interessi nascosti, perché è inutile che dicano gli europei, li hanno fatti entrare loro questi personaggi qui. E poi andiamolo a dire alle vittime, riempiamo i ristoranti, noi reagiamo praticamente andando in pizzeria. Cioè, quante vittime ci devono essere ancora? Dario, allora, di interessi, grandi interessi a livello internazionale, abbiamo parlato prima con Alberto Negri, gli Stati Uniti o chi ha, o Francia o altri paesi che hanno in certi casi, diciamo, alimentato e foraggiato terroristi perché colpissero altri terroristi e altri regimi magari dittatoriali e poi dopo si sono rivoltati contro, per cui diciamo è l'Arabia Saudita che è il principale alleato degli Stati Uniti, che comunque è molto invischiato nel terrorismo come paese, nel terrorismo internazionale. Adesso che Renzi in particolare o Alfano abbiano degli interessi, diciamo che la questione dell'immigrazione è complessa e non bisogna mai mischiare comunque il terrorismo con l'immigrazione. Qualcuno è arrivato anche in quel modo, ma tanti sono magari di seconda, terza generazione, i primi, i genitori sono stati tranquilli e poi evidentemente dopo, diciamo, tutto non ha funzionato in certi casi. Ma vorrei sentire Josephine Merluzzi, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Buonasera. Sì, ciao, buonasera a tutti. Buonasera Josephine. Allora, tu sei di origini italiane ma lavori, vivi a Bruxelles e lavori in ospedale. Sì, infatti, sono nata qua, ho sempre vissuto a Bruxelles. I miei genitori sono immigrati, ma tanto tempo fa, non è che dunque sono rimasti qua, io sono nata qua, dunque lavoro in ospedale e c'è sempre questa tensione, è sempre esistito comunque questa cosa qua. Poi oggi comunque è una giornata un po' speciale, beh. Dunque non... Ma fa strano, sai, quando vedi negli altri paesi magari, non è che ti colpisce comunque, però... Quando è nel tuo paese dove vivi te è un po' differente la cosa, sì, un po' diversa. Sì. Josephine, ma tu anche in questo momento stai lavorando in ospedale? No. No, però domani sì, si ricomincia comunque perché abbiamo avuto delle informazioni, dunque non ci fermiamo qua comunque perché si deve comunque continuare dunque. E poi non è che possiamo lasciare così tutte le persone anche. No, anche appunto, si parla dunque... di oltre 250 feriti, alcuni anche molto gravi, no Josephine? Sì, infatti, sì. E poi non è che, sono cose che arrivano così, e poi non, sai, c'è anche lo stress delle persone, le chiamate, e tu devi gestire comunque lo stress degli altri anche, dunque rimaniamo calmi, c'è sempre qualcosa del panico, però... facciamo del nostro meglio. Chiaro, comunque. In queste occasioni poi ci sono soprattutto persone come te che fanno mestieri come il tuo che devono riuscire a tenere appunto la tensione, ad aiutare gli altri, a farsi forte per gli altri. Josephine Merluzzi, allora io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro, che non sarà facile nelle prossime ore. Grazie Josephine. Sì, grazie anche a voi. Ciao. Arrivederci, ciao. Saluto adesso invece Germano Dottori, docente di studi strategici all'Università LUISS. Buonasera Dottori. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Senta, il SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia, il segretario, diceva oggi, Gianni Tonelli, diceva: siamo impreparati in Italia ad affrontare emergenze come quelle del terrorismo, e lui è reduce da un lungo sciopero della fame, proprio dice, per protestare contro i tagli alla sicurezza. Secondo lei in Italia, Alfano per esempio ha detto noi siamo riusciti per ora a prevenire, siamo piuttosto sicuri, lo stesso ministro Gentiloni diceva l'Italia è meno esposta del Belgio. Al di là di quello che è successo oggi, dell'analisi che stiamo continuando a fare, è effettivamente così per quanto riguarda il nostro paese? L'Italia è protetta innanzitutto da un fatto che è un paese che conta poco nel mondo e quindi a un certo punto se uno deve operare un attentato per produrre degli effetti politici importanti va sicuramente a privilegiare paesi che hanno un peso specifico maggiore del nostro. In questo caso ci avvantaggia il peso politico contenuto del nostro paese. Poi c'è una politica estera che facciamo piuttosto equilibrata e molto attenta a non suscitare la reazione e l'antagonismo di paesi che si sospetta, non dico favoriscano, ma in qualche modo simpatizzino, in qualche modo siano empatici rispetto ad alcune organizzazioni terroristiche. Poi viene il livello della prevenzione a casa nostra, è un terzo livello in cui abbiamo il vantaggio che per quanto le comunità musulmane immigrate stiano aumentando sono ancora diciamo più piccole rispetto a quelle che si trovano in alcuni paesi come la Francia, la Gran Bretagna e lo stesso Belgio, dove poi è più facile che possano trovare rifugio radicali, pirati jihadisti e quant'altro. Poi per quanto riguarda la capacità di reagire allo stesso livello di minaccia. Dottore, la sento poco, forse si sta allontanando dal microfono del telefono? In nessun modo, sono fermo. Non ha neanche l'auricolare, niente del genere? No, assolutamente. Ah, ecco. Purtroppo noi lavoriamo con macchine imperfette, dobbiamo accettare questo. Chiaro, chiaro, figuriamoci già, le forze di polizia, figuriamoci. Esattamente, dicevo comunque sul piano, ecco, della, ora sento bene, sì. Sul piano della capacità di contrasto, noi siamo sempre in svantaggio rispetto ai terroristi, quindi nel momento in cui qualcuno decidesse sul serio di colpire il nostro paese, ho la sensazione che come ci è riuscito nei confronti degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia, della Spagna, del Belgio, ci riuscirebbe anche qui. È inutile farsi grandi illusioni. Diciamo che abbiamo un sistema che permette di prevenire un certo numero di attacchi e di reagire alla sfida di un attacco piuttosto, diciamo, anche qui circoscritto. Dobbiamo essere molto umili in questo senso e non cullarci nell'illusione di essere migliori degli altri, perché ci sono, diciamo, esperienze che abbiamo fatto nella storia e in altri momenti che provano che quando ci illudiamo di essere particolarmente in gamba poi veniamo smentiti dai fatti. Meglio essere umili, prepararsi per il peggio, essere sempre pronti a fare qualche cosa di più piuttosto che sentirci sicuri di ciò che già sappiamo fare. Dottore, un'ultima cosa, c'è Gentiloni, fra le altre dichiarazioni che ha fatto stasera, per esempio alla 7, ha detto questo è un terrorismo diverso dal passato, un terrorismo della porta accanto, della porta accanto. Cosa si intende? Proprio questo che è nel seno, nel cuore. Gentiloni è una persona che stimo molto e trovo anche brillante e intelligente, ma questa osservazione, almeno come mi viene riportata da lei, non la comprendo in nessun modo. Questo è un terrorismo diverso per altri motivi. È un terrorismo che riesce a esigere da chi lo fa addirittura il sacrificio della vita, e questo evidentemente un salto di qualità rende, in senso negativo, rende molto più difficoltoso respingerlo, prevenirlo, perché un conto è quando tu devi predisporre il posto a farti saltare per aria per ucciderti. Chiaro. Germano Dottore, io la ringrazio, docente di studi strategici all'Università LUISS, grazie, buona Prego, serata. Arrivederci, buonasera a lei. Grazie. Abbiamo gli aggiornamenti adesso da Roberta Pellegata, ci sono delle novità, Roberta? Sì, partiamo dal fronte delle indagini, ancora non vi è nessuna conferma che ci siano legami con gli attentati di Bruxelles, come abbiamo già detto, tuttavia la polizia tedesca ha arrestato in serata 3 kosovari in Germania sull'autostrada tra Monaco e Salisburgo che provenivano da Bruxelles a bordo di un'auto registrata in Belgio. I 3 sono stati fermati perché sospettati di legami con un gruppo terroristico e questo ad ora è tutto ciò che si sa. Intanto è stato fornito un nuovo bilancio diffuso al Ministero della Sanità belga, secondo il quale i morti sono 31, non 34, non 30 come detto in precedenza, mentre il numero dei feriti è di almeno 250. Secondo gli stessi dati, 11 persone sono rimaste uccise in metropolitana, mentre 20 hanno perso la vita all'aeroporto. E arrivano anche nuovi dettagli sul primo attentato, quello appunto allo scalo di Zaventem. La fonte è il sindaco della cittadina dove si trova l'aeroporto. Lui afferma che i kamikaze 3 sono arrivati in taxi con le loro valigie dentro le quali c'erano le bombe. 2 di loro le hanno fatte scoppiare, mentre il terzo, continua il sindaco, ha messo la sua valigia su un carrello ma deve essersi lasciato prendere dal panico e non è esplosa. Quest'ultimo terrorista dovrebbe appunto essere l'uomo con la giacca crema e il cappello nero di cui la polizia ha diffuso una foto, che in questo momento è ricercato numero uno. Tra l'altro la polizia belga ha chiesto ai cittadini di inviare le loro foto perché il terrorista potrebbe essere finito negli scatti di chi era all'aeroporto nelle ore dell'attentato. E infine ricordiamo che sono stati dimessi dall'ospedale 3 feriti italiani, mentre purtroppo molti altri rimangono in gravi condizioni. Grazie Roberta Pellegata, poi la sentiremo ancora dopo perché alla spicciolata arrivano man mano degli aggiornamenti. Per esempio adesso il ministro dell'interno belga Jean Jambon ha detto stasera che le autorità sapevano che un qualche attacco terroristico era in preparazione in Europa, ma che sono rimasti sorpresi dalle dimensioni degli attentati di Bruxelles. Era sempre possibile che altri attacchi venissero compiuti, ma non avremmo mai immaginato qualcosa di questa portata. Ma insomma, a volte sembra una dichiarazione così un po' peregrina, non vorrei giudicare. Gli ascoltatori, sempre le ascoltatrici, al 349-238-6666, questo è il numero per i messaggi, il numero verde stasera, speciale effetto notte, dura fino a mezzanotte, sono con voi fino a mezzanotte, e anche il numero verde aperto a voi, microfoni. C'è Andrea da Roma. Sì, salve. Andrea, buonasera. Salve. Io volevo semplicemente dire che d'accordo il fatto che ci possano essere problemi nel coordinamento delle forze di sicurezza europee, però ritengo che azzerare, come stava accennando il professore prima, azzerare la minaccia credo che sia impossibile. Sì. Io condivido l'osservazione di Gentiloni sul fatto che è il terrorismo della porta accanto, nel senso che sono spesso e volentieri ragazzi integrati di seconda generazione o anche terza generazione che sfuggono ai controlli o quantomeno sfuggono alle retate che periodicamente ci sono, ma solo dopo che ci sono stati gli attentati, come è successo dopo Parigi, perché evidentemente c'erano state delle informazioni, ma però non si è riusciti a prendere, a fermare chi stava organizzando evidentemente già l'attentato a Bruxelles, perché evidentemente io non credo che sia stata una reazione all'arresto di Salah, in quanto in 3 giorni non si organizza un attentato del genere. Quindi ritengo che purtroppo in futuro bisognerà prepararsi al peggio tra virgolette, perché la situazione a livello internazionale è ingessata. Interventi seri nel Medio Oriente da parte dell'Occidente non sembrano all'orizzonte, e di conseguenza se continueranno attentati in Europa probabilmente ci saranno in futuro problemi di convivenza. Non sarà una battaglia facile, Andrea, su questo sicuramente hai ragione. Grazie Andrea da Roma. Sempre all'800 24 00 24 c'è Giorgio da Brescia. Buonasera Giorgio. Vorrei fare una domanda che insieme anche una constatazione magari controcorrente. Se uno avesse una moglie, un figlio, un parente comunque fra gli assassinati da questi criminali, possibile che non mi venga l'istinto di dire questi hanno sparato nel mucchio? Beh, io vado fuori, i primi musulmani che vedo sparo nel mucchio, cioè sarà una constatazione di vendetta banale. Siamo diventati tutti così buoni, così superiori, così evoluti. Giorgio, ma tu una cosa del genere. Vai scusami Giorgio, Giorgio, sì. Ma tu vai e spari nel mucchio ai musulmani o spari nel mucchio a quelli che ritieni che siano effettivamente dei terroristi in modo comprovato? No, sparo nel mucchio ai musulmani, questi sparano nel mucchio a noi, io sparo nel mucchio ai musulmani. Se capitasse mio figlio sarei anche in grado di farlo una cosa del genere, magari in un raptus di follia, per carità. Ammetto che non è una cosa razionale, che non è una cosa civile, però voglio dire, l'istinto potrebbe anche suggerirmi una cosa del genere. Mi stupisce, ecco la mia osservazione, mi stupisce magari positivamente che non ci sia stato nessuno finora che abbia avuto una reazione del genere. No Giorgio, al momento no, e certo non ci si può vendicare su degli innocenti, fra l'altro. Lo so, ho capito, però tutti siamo disperati perché ci uccidono i figli, le mogli, i ragazzi, eccetera, e vabbè, siamo tutti buoni, siamo tutti diventati amici di Papa Francesco, che so, è una constatazione che faccio, è sparita la cattiveria dall'umanità, insomma. No, non direi, non direi che la cattiveria è scomparsa, Giorgio, ti ringrazio, e anche se appunto, insomma, sparare nel mucchio di chi è innocente non mi sembra una buona vendetta se proprio uno si dovesse vendicare. Umberto da Genova. Ciao Roberta, ciao. Niente, Umberto, io ciao. Mi collego un po' al discorso che ha fatto l'amico prima in onda. Quale dei molti, Umberto? No, riguardo che uno che spara nel mucchio, secondo me non è quella poi la soluzione, perché il cane che scaccia cane non funziona, lo abbiamo capito. Io penso che se una persona arriva a farsi esplodere in nome di un Dio, vuol dire che è talmente radicata la sua fede al suo interno che ci vuole proprio l'imam che gli dice che quello che sta facendo è sbagliato. Perché noi non abbiamo ancora visto una reazione, una presa di posizione ferma dagli imam. Guarda, in realtà stavo guardando, Umberto, sì, che i musulmani tedeschi hanno preso posizione condannando, sì, questi attentati, e anche il presidente dell'UCOI di Firenze, dell'Unione delle, sì, Comunità Islamiche. Quindi, insomma, diverse voci dal mondo musulmano che condannano. Sicuramente io ritengo che dovrebbe essere presa in considerazione il fatto proprio che forse più visibilmente come, ecco, forse più esatto, visibilmente proprio come una forma di conversione, no? Nel fatto che il fatto di uccidere altre persone poi non è quello che vuole la religione, che sia cristiana, che sia musulmana. Io penso che la base fondamentale è promuovere la vita, non uccidere. Chi uccide effettivamente è poi un criminale. Arrivare al punto di esplodere per pensare di andare in paradiso e avere chissà quali agevolazioni, chissà quale manifestazioni bellissime, ma uno dovrebbe come minimo pensare che quello che sta facendo è sbagliato. E se non parte proprio da loro, proprio come cultura, non esiste questa conversione, è inutile. E queste persone qua, a parte il fatto che giustamente, come si diceva, ce l'abbiamo in casa, e quindi non possiamo pensare che da domani spariscano queste persone. Forse dovremmo cercare di cambiare proprio il loro modo di vederci, e noi altrettanto, noi di vedere loro. Ora, io non sto dicendo che sono il buonista della serata, non lo sono, perché quello che è successo sinceramente lascia tutti sgomenti. Non si può pensare che si possa andare avanti così, che il futuro sia questo. Però dovremmo cercare di cambiare cultura. Umberto, per esempio, vedevo qualche giorno fa una pubblicità Progresso, che però poi non ho più visto, e era stata fatta apposta per le famiglie che arrivano in Italia di religione islamica, nei confronti degli uomini in particolare, dove si spiegava agli uomini qui devono essere in genere i diritti pari tra donne e uomini, si vedevano anche uomini che abbracciavano le proprie compagne o le proprie figlie, e c'erano sotto degli audio loro stessi che parlavano, che dicevano effettivamente io e mia moglie, io e mia figlia, eccetera eccetera, proprio per educare alla parità di genere, che il primo passo, anche veramente sembra banale, ma è davvero il primo passo per cambiare mentalità, per cambiare cultura, per liberarsi di questa idea della sopraffazione, del possesso, di qualcuno che comanda sull'altro, qualcuno che detiene la vita dell'altro. Poi non l'ho più vista, però sono, per esempio, in Norvegia le fanno, sono, e anche mi pare in Finlandia, in Svezia, dei corsi di educazione ai valori occidentali, che poi in realtà sono valori universali, quello del rispetto reciproco, della parità tra tutti gli esseri umani. Grazie Umberto Genova. Adesso, prima di prenderci tra poco un'altra pausa, intanto un WhatsApp, anche se vi ho detto do la precedenza questa sera, chi telefona al numero verde 800 24 00 24, è un numero verde quindi gratuito, 800 24 00 24, questo WhatsApp di Antonio da Termoli, che dice: avrei piacere di capire come è possibile che all'ingresso degli aeroporti ancora non sia previsto il controllo delle borse, bagagli e persone a tappeto, accompagnatori inclusi. Non parlo della zona subito dopo il check-in, parlo dell'ingresso principale, parte delle zone comuni. Sono rimasto colpito dal fatto che questo accade già negli aeroporti, ad esempio thailandesi, è vero, posso dirlo, testimoniarlo, e non in quelli europei, che io sappia almeno, dice Antonio da Termoli. Poi lo chiederemo ai prossimi esperti che sentiremo man mano. Intanto c'è Gianluigi da Pescara? Sì, esatto, buonasera. Buonasera Gianluigi, prego. Dunque, telegraficamente, sì. La sintesi perfetta fatta da Alberto Negri poco fa andrebbe ripetuta come uno spot presso tutti i telegiornali, notiziari, delle reti nazionali e non solo, perché tocca una grande verità ed è molto diversa dalle farneticanti affermazioni che sentiamo da più parti politiche. Detto questo, io che ho 56 anni ricordo molto bene gli anni di piombo. E qui siamo in una situazione di emergenza. Sono d'accordissimo con tutto quanto si è detto sul fatto di adottare una strategia multimediale e multifunzionale. Ma adesso c'è un'emergenza, dobbiamo agire con efficacia. All'epoca voglio ricordare che esisteva un ministro dell'interno criticatissimo, che è stato anche Presidente della Repubblica, Cossiga, che con molte polemiche e in coordinamento all'epoca con governi tedesco e svizzero costituì delle leggi speciali ad hoc, ad esempio sulla carcerazione preventiva, sulle quali si può polemizzare finché si vuole, ma siamo in emergenza. In questo momento c'è la necessità di passare al setaccio tutte le aree a rischio delle grandi metropoli e delle grandi periferie europee. Eh sì, Gianluigi, sì, non è neanche semplicissimo, andrebbe fatto, se pensiamo per esempio solo all'Italia, già le carceri sono strapiene, quindi si direbbe, a parte poi che adesso anche nei confronti del carcere preventivo ci sono regole particolari. Comunque, chiaro il tuo pensiero, Gianluigi, sentirei Massimiliano invece della provincia di Verona. Sì, buonasera. Buonasera Massimiliano. Niente, io volevo fare un appunto su una cosa particolare, che sono le rivendicazioni. Prima l'ascoltatore di prima citava gli anni di piombo che abbiamo vissuto, sì, decenni fa, dove le rivendicazioni erano molto precise, erano molto chiare, e su quelle poi si sono anche sviluppati, erano delle prove anche documentali su cui si erano sviluppati anche dei dei processi. Quello che vediamo invece continuamente in questi anni sono delle rivendicazioni che sinceramente a me sembrano un po' vaghe. Farneticanti, nel senso che, forse, vuol dire. Ma più che farneticanti, proprio da un punto di vista di evidence, come si dice in inglese, che è la parola forse più precisa, sono vaghe, nel senso che arrivano magari da dei tweet, anzi l'abbiamo visto là, cioè non sono delle prove chiare come avevamo appunto un tempo. Quindi questo mi dà un po' sinceramente da pensare, nel senso che forse anche la comunicazione che arriva dopo, l'informazione che arriva dopo, forse non è precisa come dovrebbe essere. Adesso non voglio qui cominciare con discorsi complottisti, lasciamoli pure perdere, però una cosa che si può notare, sicuramente una differenza enorme è quella, cioè queste rivendicazioni sono abbastanza vaghe. Poi se mi dà un attimo, volevo anche fare un appunto su alcune considerazioni che ho sentito sempre in questi minuti di trasmissione. Si parla di queste persone che si fanno esplodere. Consideriamo che una persona, sì, questi kamikaze, ma non sono persone normali, sono persone sicuramente drogate, sono persone con un cervello completamente plagiato, che fanno determinate cose che una persona normale difficilmente arriva a fare. Per cui consideriamo che ci troviamo, sì, come diceva giustamente l'ascoltatore di prima, in una situazione di emergenza, ma consideriamo che siamo di fronte anche a delle situazioni di persone estremamente manipolate, estremamente ripeto, però purtroppo scendere. Massimiliano, non sono poche manciate di persone, evidentemente questa ideologia farneticante, come la vogliamo chiamare, ha una presa molto forte. Poi ne parleremo proprio con uno psichiatra che si occupa della psicologia, appunto, dicevo, sia dei mafiosi, dei criminali in genere e in particolare anche dei terroristi. Massimiliano, ti ringrazio. Guardavo anche questo messaggio di Carmen, sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ho paura, ma ho anche paura di chi, sentito da molti, dice demonizza tutti quelli di religione islamica. Non credo che l'idea espressa di cacciarli fuori tutti abbia un senso. Dice d'accordo, è frutto di odio, comprensibile, ma non è questa la soluzione. Maurizia dice concordo pienamente con l'analisi lucidissima che ha appena fatto Alberto Negri, non ho altro da aggiungere, solo profonda tristezza per le vittime innocenti. Ci prendiamo una pausa adesso, vogliamo sentire Romano da Roma e poi dopo ci prendiamo questa pausa. Poi potete continuare a chiamare il numero verde 800 24 00 24. Romano, dimmi. Buonasera. Grazie. Buonasera, sì sì. No, io di fronte a questa, diciamo, a questa serie di eventi facevo una riflessione, perché mi capita del lavoro da circa 25 anni di essere a Bruxelles regolarmente intorno ai 10, dalle 10 alle 20 volte all'anno, e sicuramente ho vissuto personalmente, diciamo, ecco, l'evoluzione di questa città che per anni, che negli anni non ho mai considerato sinceramente facente parte di una nazione come il Belgio. Si va a Bruxelles, no? Tutti noi andiamo a Bruxelles, non andiamo in Belgio. Si va a Parigi e si va in Francia, no? Si va a Londra e si va in Gran Bretagna, ma quando si va a Bruxelles non si va in Belgio, si va in un posto un po' isolato, no? da un contesto nazionale, che di fatto è questo centro dove si svolge la vita europea. Insomma, noi andiamo lì per gli organismi comunitari, ovviamente Maelbeek è la stazione che usiamo tutti quanti. Quella dove c'è stato il secondo attentato stamattina, no? Nella metropolitana. Sì, a Rue de la Loi, che è proprio il centro di tutti gli organismi comunitari. Insomma, è un posto che uno sente casa propria molto più di tante altre città italiane, insomma, no? In cui si va più raramente. Ma al di là di questo, proprio in relazione a questo mi sembrava un po' strano questa la rivendicazione, dice no, noi siamo, abbiamo fatto questo attentato, no, ho sentito la BBC, dicevano in relazione all'intervento della nazione belga, del Belgio, nella scesa in campo del militare, appunto, degli interventi contro alcune fazioni, appunto, in Medio Oriente. Mi sembra un po' strano, la trovo stonata questa cosa. Questi sono dei terroristi belgi, ricordo, ero a Bruxelles quando è successo, proprio a Bruxelles, la sera in cui è successo l'attentato a Parigi, sentivo cantare la Marsigliese di notte, non capivo perché c'era un motivo, c'erano dei parigini che avevano avuto la notizia. E mi sono chiesto, sì, ecco, effettivamente il Belgio, Bruxelles è un posto dove tutto può accadere, perché effettivamente le comunità straniere, diciamo, ecco, nordafricane, insomma, sono estremamente radicate nella città, molto radicali, non mi sembrano neanche particolarmente, come dire, ghettizzati, o comunque vivono in nuclei così, diciamo, in difficoltà come a Parigi. Però quello che dico mi sembra strano, lo trovo una cosa stonata, colpire Bruxelles per colpire il Belgio. E che cosa si va a colpire? No, probabilmente si colpisce Bruxelles per colpire l'Europa, tutto il continente. Romano, poi sentiremo cosa ne pensa Gianni Cipriani, che interverrà tra pochissimo. Intanto ti ringrazio, Romano. Continuate con le vostre riflessioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, soprattutto stasera, visto che ci sono i microfoni aperti, questo Effetto Notte speciale fino a mezzanotte. Il numero verde è 800 24 00 24. E poi se volete anche gli sms, questa sera però do priorità alle telefonate, che sono gli sms al 349 238 6666. Vi ricordo anche quali sono i titoli principali, oltre appunto a quello che è successo a Bruxelles. Prosegue intanto la caccia all'uomo, altri tre terroristi pronti a colpire, dice la polizia che diffonde le foto di tre attentatori, due forse morti, cresce l'allerta in tutta Europa. La strage di ragazze in Spagna, le salme di tre delle sette studentesse italiane morte nell'incidente del pullman, stanno tornando in serata, giovedì sarà ultimato il rientro. Migranti, due profughi si sono dati fuochi nel campo greco di Domeni per protestare contro la chiusura delle frontiere. Cuba, continua la visita del presidente americano Obama, oggi l'incontro con un gruppo di dissidenti. Monte dei Paschi di Siena, la procura dispone la riesumazione della salma di Davide Rossi, ex capo area comunicazione della banca, morto il 6 marzo 2013. Per quanto riguarda la moda, Armani dice definitivamente addio alle pellicce animali dalla prossima stagione invernale. Parliamo adesso con Gianni Cipriani, giornalista di Globalist, scrittore, analista di intelligence, esperto di terrorismo e servizi segreti. Cipriani, buonasera. Buonasera a voi. Insomma, abbiamo fatto varie riflessioni intorno a quello che è successo oggi. C'era l'ascoltatore prima, non so se l'ha sentito, che diceva che è strano Bruxelles voler colpire una città come Bruxelles, però è la capitale d'Europa con tutte le istituzioni comunitarie, no? che sono lì, quindi è un colpire. Abbiamo parlato dell'alto valore simbolico proprio di questo attentato lì. Tra l'altro leggevo prima che il ministro dell'interno belga ha detto stasera che le autorità sapevano che un qualche attacco terroristico era in preparazione in Europa, ma che sono rimasti sorpresi dalle dimensioni degli attentati di Bruxelles. Non è un po' di ingenuità o sprovvedutezza questa, Cipriani, di sorprendersi? Ma io credo che il problema sia molto complesso. In effetti, proprio il giorno della cattura di Salah Abdeslam, sì. Il procuratore di Parigi aveva parlato di Parigi, quindi della Francia, aveva parlato di un possibile attacco imminente. E per la verità, noi come Globalist, ma ovviamente non penso solo noi, avevamo scovato in rete un video molto particolare messo dallo Stato Islamico, in cui si celebravano le lodi dei martiri dal loro punto di vista, ovviamente, delle stragi di Charlie Hebdo, del Bataclan e Merah, ossia l'autore della strage di Tolosa, e quindi venivano presentate un filmato agiografico dicendo: questi sono morti per Allah, sono morti per il nostro bene, sono morti per la nostra religione. E noi ci siamo permessi di dire che questo era un segnale. Quindi ovviamente lo sapevamo noi, lo sapevano anche, l'avevamo capito noi, l'avevamo capito anche gli altri. Il problema è duplice. Il problema è che da un lato i jihadisti negli anni hanno creato una struttura logistica molto efficace, e purtroppo dobbiamo pensare che godono di un sostegno, di un'area di consenso, un'area di fiancheggiamento. Noi all'epoca delle Brigate Rosse parlavamo dei fiancheggiatori, se ci ricordiamo. Sì. Per cui senza questo sarebbe stato assolutamente impossibile che il super ricercato di Europa, Salah Abdeslam, fosse proprio laddove veniva cercato. Chiaro. Per 4 mesi. Quindi dimostra che c'è questa capacità, e c'è anche una capacità militare molto avanzata. Fatta questa premessa, il problema è tragicamente semplice. Cioè, il problema è che questo tipo di terrorismo va sventato all'origine, perché non potranno mai esserci metal detector, soldati alle stazioni, aeroporti blindati che possono fermarli una volta che sono entrati in azione. E questo purtroppo è dimostrato. E quindi quale altra via? Sì. L'altra via è che in questo momento si è molto puntato sull'elemento psicologico, sulla militarizzazione delle città. In realtà si è lavorato molto sulla valle, diciamo, usiamo questa immagine, mentre secondo me, ma secondo molti, bisogna lavorare a monte, quindi con investire molto di più nell'intelligence, ma nell'intelligence fatta bene, piuttosto, se posso usare uno slogan, piuttosto che sui metal detector, perché i metal detector spostano il problema, semplicemente lo spostano 100 metri più avanti. E infatti, a questo proposito, mi perdoni Gianni Cipriani, le faccio sentire che cosa ha detto fra le varie cose oggi Renzi, a proposito anche di questa benedetta intelligence unica, sentiamolo. Non è dunque il tempo degli sciacalli, ma non è neanche il tempo delle colombe. Ci vuole un patto europeo, un patto per la libertà e la sicurezza. I terroristi puntano a toglierci la libertà perché sanno che la libertà è ciò che costituisce il marchio di fabbrica dell'Europa. Vada fino in fondo, allora, stavolta l'Unione Europea. Occorre investire in una struttura unitaria di sicurezza e difesa, unitaria. È dal 1954 che l'Europa discute e litiga sulla difesa comune. I servizi segreti lavorino di più insieme e meglio insieme, con una collaborazione costante, puntuale e continua. Gianni Cipriani, continuiamo ad avvitarci intorno a questi discorsi, a questi auspici, a questi appelli, o ci si può arrivare veramente a questa... Guardi, quello che ha detto Renzi è auspicabile. Il problema è che i servizi segreti dipendono dai governi, e il problema è che i governi, compresi i governi d'Europa, perseguono obiettivi che non sempre sono gli stessi. Se noi pensiamo alla guerra di Libia, di pochi anni fa, quando fu scalzato Gheddafi, diciamo che è abbastanza noto nell'ambito della riservatezza che al pari della guerra di Libia c'è stata una sorta di guerra tra i vari servizi di intelligence europei, in particolare una certa contrapposizione tra Italia e Francia, il ruolo del Qatar, della Turchia, dell'Egitto, ognuno dei quali puntava su un diverso vincitore della guerra civile. E anche questo ha contribuito a creare il caos libico, che già di suo poteva essere in qualche modo prevedibile, no? Perché si sapeva che senza la figura centrale sarebbe successo quello che era successo. Egualmente, riguardo la guerra in Siria, c'è chi appoggia la cosiddetta opposizione ad Assad. Chi, appoggiando l'opposizione ad Assad, ha appoggiato i gruppi islamisti, chi adesso vuole disfarsi dei gruppi islamisti, chi fa il contrabbando di petrolio, la Turchia che fa parte della NATO però contemporaneamente gioca più ruoli. Quindi il problema non è dire che le intelligence devono andare insieme, il problema è avere una politica europea comune e dove si guardi un interesse europeo e non si guardi gli interessi, tanto per non fare nomi, della Eni o della ERG rispetto a determinate aree di influenza politica e strategica. Questo è un po' il problema. Ciò detto, però, anche questo non basta, perché è importante lo scambio di informazioni, però a mio giudizio non è sufficiente. C'è bisogno di un'innovazione. Se noi siamo ancora protocolli di ordine pubblico, soldati, metal detector, ronde, divieti, chiusura delle frontiere. Il problema è che noi siamo di fronte a un fenomeno transnazionale con base di massa, perché il califfato ha milioni di simpatizzanti in tutto il mondo, e quindi o troviamo una nuova formula, che io ovviamente non conosco, se no magari mi proporrebbero per diventare segretario dell'ONU, ma una nuova formula per comprendere queste dinamiche e cominciare a usare i loro stessi modi di ragionare per capirli e per prevenirli, piuttosto che adottare una logica, come dire, di ordine pubblico vecchia maniera. Io credo che questa sia la sfida, cioè comprendere come riuscire a innovare le strutture di intelligence, le strutture di polizia, per far fronte a questo nuovo fenomeno epocale che non ha nulla a che fare con il vecchio terrorismo, che non ha nulla a che fare con i vecchi movimenti di guerriglia popolare degli anni 70, che è un fenomeno totalmente nuovo. Speriamo, Gianni Cipriani, che non sia un livello troppo alto al quale arrivare, per cui insomma diciamo, siamo inadeguati in Europa e non solo in Europa, ma anche a livello internazionale. Intanto la ringrazio moltissimo, Cipriani. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata. A proposito delle notizie, sentiamo da Roberta Pellegatta se man mano viene fuori qualcosa di nuovo da Bruxelles, dal Belgio e dalle indagini internazionali. Roberta? Allora, domani Bruxelles non sarà una città blindata. Partiamo da questo, da quanto dichiarato in conferenza stampa dal presidente della regione di Bruxelles, Rudy Verwoerd. Il ritorno di livello 4 della minaccia su tutto il territorio non si tradurrà questa volta in un blocco di Bruxelles, ha detto. E infatti, come si apprende dai media belgi, domani a Bruxelles le scuole, i centri commerciali, i palazzi delle istituzioni regionali e comunali saranno aperti. L'aeroporto di Zaventem, a quanto si apprende, dovrebbe invece tornare operativo giovedì. Chiusi domani invece i musei e annullate sempre domani anche le manifestazioni che prevedono assembramenti di persone. Il presidente Verwoerd ha anche invitato tutto il Belgio a rispettare domani a mezzogiorno un minuto di silenzio per le vittime e i feriti del duplice attentato. Le prime sono 31, a quanto comunicato un'ora fa dal Ministero della Sanità belga, i secondi almeno 250, diversi dei quali in gravi condizioni. Sul fronte delle indagini ricordiamo gli arresti avvenuti in Germania, magari si riveleranno un flop. Vero è che la polizia tedesca ha arrestato in serata tre kosovari sull'autostrada tra Monaco e Salisburgo, provenivano da Bruxelles a bordo di un'auto registrata in Belgio. I tre sono stati fermati perché sospettati di legami con un gruppo terroristico. Per il momento è tutto. Grazie Roberta Pellegatta. Ancora i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666 per il numero per gli sms. Stasera, che è una puntata speciale di tre ore con i telefoni aperti, vorrei sentire soprattutto le vostre voci. Per esempio c'è Massimo da Roma. Sì, Massimo, buonasera. Prego. Dunque, io volevo dire questo. È vero, sì, che siamo di fronte a un fenomeno religioso, diciamo, una specie di guerra di civiltà, però molti dei terroristi che hanno agito negli ultimi tempi sono ragazzi, cittadini belgi, francesi, e quindi secondo me c'è un problema sociale. In Francia si è molto interrogati sul fenomeno delle banlieue. Ora noi abbiamo un'immigrazione, che sono il frutto di seconda, terza generazione di immigrazioni storiche in quei paesi. Ora, con il flusso che noi abbiamo oggi, dobbiamo pensare che se non gestiamo questi flussi inarrestabili, peraltro, il fenomeno non può che amplificarsi. Allora io credo che l'Europa debba interrogarsi anche sulle politiche sociali che fa al suo interno, e credo che se l'attività investigativa anche sì, controllare tutto non si può. In Israele colpiscono sugli autobus, qualsiasi luogo di assembramento può essere un obiettivo e non si può controllare tutto, quindi bisogna andare alla radice del problema e cercare di fare indagini sulle persone, come si fa, ma anche di cercare di agire economicamente. Io come cittadino mi sento doppiamente vittima, da un lato perché ci stiamo un po' impoverendo, cioè l'Europa anche ha una lacuna di consenso non a caso, anche interna. Ecco, e dall'altro poi mi fanno anche gli attentati, ora rivolti proprio al pubblico. Forse noi dovremmo cominciare a distribuire anche un po' le ricchezze all'interno della nostra Unione Europea. Devono cambiare le politiche. Grazie Massimo, grazie Massimo. Tu parli di equità sociale. Adesso salutiamo Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa e collaboratore del Sole 24 Ore. Buonasera Gianandrea. Sì, buonasera Roberto, buonasera radioascoltatori. Senti, Israele, leggevo poco fa, dice è una terza guerra mondiale, lo dice il ministro della difesa, serve un'azione congiunta, intelligence congiunta per un mondo libero. Ne abbiamo parlato anche adesso della difficoltà, insomma, di fare un coordinamento internazionale, europeo e non solo europeo, perché ci sono i nazionalismi, le gelosie private, gli interessi anche diversi, come si è visto per esempio in Libia. Tu pensi che effettivamente si tratti di una terza guerra mondiale? Il Papa tempo fa, frase famosa, aveva detto una terza guerra mondiale a pezzi, no? Io credo che sia passato molto tempo dalle guerre mondiali, quelle vere, per cui l'ultima è costata 50 milioni di morti, per cui non siamo più abituati alla guerra, neppure a quella normale, quella più limitata, per cui spesso usiamo termini di questo tipo senza renderci conto che le guerre mondiali sono state cose molto più ampie. Però credo che siamo di fronte a una guerra che intanto dovremmo accettare di essere in guerra per poterla combattere. Noi non l'abbiamo mai accettato, quando dico noi intendo dire tutta l'Europa, forse l'Occidente, ma in particolare l'Europa. E perché se è vero la rivendicazione degli attentati di oggi dello Stato Islamico, se è vero che il nemico è lo Stato Islamico, beh, a differenza di quello che fu Al-Qaeda, che ricordiamocelo tutti, minaccia gravissima, ma comunque questi si nascondevano nelle caverne in Afghanistan o altrove. Beh, lo Stato Islamico ha un confine, ha una capitale, ha un esercito, ha un'amministrazione come un vero Stato. È un anno e mezzo che diciamo di fargli la guerra con questa coalizione che insomma non ha qua guida americana, che ha combinato ben poco. Se veramente volessimo combattere lo Stato Islamico, basterebbe fargli la guerra. Cosa quindi che tu, non dici, tu dici è possibile, non, perché tutti ormai stiamo assorbendo questo senso di impotenza, no? Di pensare che non ci libereremo mai di questo male così guarda, grande, di questa efferatezza. Questa guerra va combattuta su due fronti. Uno è quello iracheno, siriano, libico. L'ISIS in Libia si allarga da tempo, stiamo chiacchierando tutti, inclusi noi italiani. Noi gli abbiamo tirato una sola bomba in testa, quelli che l'hanno fatto sono stati gli egiziani l'anno scorso. Cosa faresti, tu in Libia? Perché si dice, però se si interviene, se si rischia di fare, a parte che lo è già una situazione del caos totale. Ma sì, no? Io non penso che dovremmo intervenire in Libia mandando soldati a presidiare palazzi a Tripoli per attirare tutti i jihadisti kamikaze del Sahel, ma credo che se il nemico è l'ISIS ed è a Sirte, un'azione militare rapida, devastante, come purtroppo devono essere le guerre, perché pensare quindi di anche fare con guerre, vittime civili vuoi dire? Ma perché quelli di Bruxelles cos'erano? Cioè, voglio dire, le guerre si fanno così, se no, se non siamo più capaci di fare le guerre, allora smettiamola di parlare di guerra mondiale e anche di guerra locale. E il problema è che dobbiamo accettare che la guerra comporta dei costi, che sono anche morali, che sono anche in vittime, in denaro. E poi c'è l'altro fronte, che dicevo, quello interno nostro. Noi non possiamo continuare a pensare di scaricare le responsabilità sui servizi di intelligence, quando la politica europea ha riempito le nostre città di nazisti che si richiamano all'Islam, ma propagandano valori che sono assolutamente inaccettabili, non dico per l'Occidente, dico in base alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che l'ONU promulgò nel 1947 e che guarda caso nessun paese islamico ha mai sottoscritto perché non rispondeva alla Sharia, non era compatibile con la legge coranica. Allora è chiaro che se noi riempiamo, lasciamo che a Molenbeek come a Colonia ci siano imam salafiti che propagandano il rogo per gli omosessuali o che giustificano lo stupro di donne che vanno in giro in minigonna e si profumano, come leggiamo nelle dichiarazioni di questa gente, e che oltre a dire queste cose orribili fanno propaganda e educano migliaia, centinaia, forse migliaia di giovani Salah al jihad. Allora è inutile che poi andiamo a dare la caccia ai terroristi, noi dobbiamo colpire l'estremismo prima che diventi terrorismo. Gianandrea, dimmi solo una cosa, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Diversi ascoltatori e ascoltatrici si chiedono come hanno fatto a entrare nell'aeroporto così facilmente. Forse è impossibile fermarli, come io per esempio sono una sportiva, vado sempre con lo zaino in giro perché magari vado a correre, eccetera. Se scendo alla metropolitana nessuno mi controlla, no, nello zaino. Quindi... Certo. Sì, ma vedi, loro non sono entrati nell'area, non hanno superato gli sbarramenti di controllo dell'aeroporto. L'area check-in, ci andiamo chiunque di noi, ci può entrare accompagnando chiunque o anche solo a fare un giro senza subire un controllo personale o delle borse che portiamo con noi. E questo va anche per le metropolitane. Pensare di fare controlli agli accessi di questi edifici, aeroporti o metropolitane, no, si può fare, però chiunque abiti in una grande città deve preventivare che deve alzarsi 3 ore prima ogni mattina perché prima di entrare in metropolitana dovrà fare lunghe code per subire controlli. E poi attenzione, loro stanno usando degli esplosivi fatti in casa in molti sì, si parlava di chiodi e pezzi di vetro che stanno creando poi per i poveri feriti anche delle amputazioni. Questo è l'effetto scheggia, l'effetto shrapnel, ma l'esplosivo spesso viene fatto con prodotti che hanno imparato a fare, ci sono anche addirittura dei video su internet, nei siti jihadisti che ti insegnano a farlo, con prodotti che puoi comprare in un supermercato e poi ovviamente intorno a questo esplosivo metti chiodi, vetri, qualunque cosa possa aumentare l'effetto devastante dell'esplosione, ma molti di questi esplosivi non vengono rilevati neanche dai detector o dai cani addestrati a rilevare l'esplosivo. Quindi insomma, la questione è molto complicata per avere una sicurezza totale. Chiaro. Però del resto questo è il problema, e se non lo affrontiamo, come dicevo prima, nelle sue reali e concrete dimensioni, rischiamo di continuare a chiacchierare come spesso si fa dopo questi attentati. Gianandrea, torneremo a parlarne sicuramente. Adesso c'è il giornale radio e poi parliamo con lo psichiatra per spiegare qual è la psicologia di chi si fa manipolare o comunque aderisce a certe ideologie. Un effetto notte, direi, in edizione davvero speciale per quello che è successo oggi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, a Bruxelles con i due attentati, il duplice attentato, uno all'aeroporto principale di Bruxelles, della capitale belga, che è Zaventem, e l'altro nella fermata del metro Malbec vicino alle sedi delle istituzioni europee. Sempre Roberta Giordano con voi, di solito ci sentiamo tutte le sere dalle 21 alle 22, oggi invece dalle 21 a mezzanotte, con le vostre riflessioni su questa ulteriore, diciamo, ripiombarci nell'incubo del terrorismo, nell'insicurezza, nell'ansia, nel sentire che il mondo intorno a noi sta cambiando, e questo ci fa anche sentire impotenti, anche se abbiamo sentito poi dai vari analisti esperti in realtà quante responsabilità anche l'Occidente nell'aver fomentato e anche foraggiato i movimenti integralisti islamici per muoverli prima contro uno, poi contro l'altro, ce ne siamo serviti e poi dopo ce li siamo visti ritorti contro. Proseguite con le vostre telefonate, le vostre riflessioni al numero 800 24 00 24, che è un numero verde, quindi gratuito, e poi come sempre i vostri due canali qui Effetto Notte sono sempre per interagire, la pagina Facebook di Effetto Notte o gli sms al 349 238 6666, anche se stasera do preferenza naturalmente, visto l'eccezionalità, al numero verde e alle vostre voci. C'è Mauro da Rimini. Mauro. Ah, pronto. Buonasera Mauro. Dunque, allora, questa gente qui è gente che non ha nessuno scrupolo dettato dalla religione, per cui non c'è nessun problema di distoglierli, no? Mm. Allora, il quadro centrale è la testa della cosa. Il califfo che rimane in Medio Oriente, cioè, ci sono circa 60.000, è vero, ci sono 60.000 satelliti tra cinesi e indiani che lo guardano, più quelli americani, quelli russi, per cui sanno anche nel cespuglio dove va a fare la pipì. Per cui voglio dire, se lo vogliono togliere di mezzo, fanno prestissimo togliere di mezzo, che questa guerra giova agli americani come è giovata la seconda guerra mondiale. Quando noi saremo terrorizzati tutti, arriveranno gli americani, l'ultima volta ci chiesero tutto l'oro che avevamo nelle casse, volta non so cosa ci chiederanno. Ci Mauro, non lo so, non credo, ecco, che ci sia proprio un interesse così lucido e trasparente, no? Assolutamente no, però si è visto con i vari ospiti che ci sono stati qui, Effetto Notte, i vari analisti, da Gagliani ad Alberto Negri a Dottori, che effettivamente insomma ci sono stati interessi contrapposti, per cui si sono anche strumentalizzati e usati questi movimenti integralisti finché poi sono cresciuti e la bomba è scoppiata in mano, diciamo così, simbolicamente, e poi purtroppo anche nella realtà. Continuate con le vostre riflessioni 800 24 00 24 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Enza scrive: l'Europa è totalmente impreparata ad affrontare gli attentati. E poi invece Pietro di dice, questo è Lucas che dice che a proposito fa dei messaggi con vari pezzi, quindi non riesco a leggerli tutti insieme, fa varie puntate effettivamente. E poi c'è invece l'Argen che dice che si sente vulnerabile e non c'è niente, dice, che io possa fare, a proposito della sensazione che proviamo tutti di fronte a questi fatti. Però vi dicevo prima che sarebbe interessante, visto che molti si chiedono come è possibile che questi tanti uomini giovani aderiscano a questa ideologia, abbia presa su di loro e compiano questi attentati, appunto, senza il minimo scrupolo, facendo anzi, diciamo, dell'autolesionismo verso se stessi, quindi saltando in aria e non avendo nessuna remora a fare stragi efferate, così sparando nel mucchio senza degli obiettivi, che sono comunque sbagliati, ma degli obiettivi ben mirati, precisi. Ne parliamo con Corrado De Rosa, che saluto. Buonasera, Corrado. Buonasera a voi. Psichiatra, scrittore, esperto del connubio tra salute mentale e criminalità, dei mafiosi, dei jihadisti. Allora, Corrado, c'era per esempio, mi pare Massimiliano, insomma, vari ascoltatori che dicevano: in realtà questi sono molto giovani, questi jihadisti, sono per lo più ventenni o poco più, vengono manipolati, plagiati, sono un po' pazzi, non sono delle persone normali. E dice, altrimenti una persona normale non farebbe queste cose. In realtà si diceva anche con i vari analisti stasera qui Effetto Notte che sono milioni simpatizzanti nel mondo. Quindi com'è possibile questo? Che presa? E anche diceva qualcun altro, a cosa gli giova continuare a alimentare odio verso loro stessi, no? Il fatto di compiere queste stragi, chiaramente. Ma innanzitutto gli do il fatto che loro hanno una visione in prospettiva di un grande archetipo della cultura islamica, cioè la realizzazione del grande Stato. Poi le divergenze riguardano la modalità attraverso cui si arriva a questo disegno. Nel caso del fenomeno del jihadismo, intanto non è una vicenda che noi osserviamo per la prima volta, cioè la partenza da Occidente verso i luoghi delle guerre dell'Islam. C'era stata la prima ondata in Afghanistan, c'era stata la seconda con Al-Qaeda con un picco tra il 2003-2006, questa è la terza. Qual è il valore aggiunto di questa? Il fatto che c'è la territorializzazione, cioè il fatto che il disegno di Daesh è un disegno che attualizza, rende concreta una prospettiva altamente idealizzata, in un modello di pensiero che è lo stile di pensiero del fondamentalista. Cioè, il fondamentalista ha una visione ideologico-organizzativa, però dal punto di vista psicologico ha delle caratteristiche molto precise. Affettive, per esempio, no? Perché aderire a un disegno di questo tipo fa oscillare dall'angoscia all'attacco dell'identità e l'esaltazione per essere dentro questo mondo. La paranoia, no? Tutto il male è fuori. Il dogmatismo, cioè l'accentuazione delle differenze, uno stile cognitivo molto preciso, no? Dire sempre che gli argomenti degli altri non sono pertinenti, eccetera. Il fanatismo, l'adesione incondizionata ad un modello e compagnia bella. Ora, il punto qual è? Che è chiaro che tutto questo, soprattutto se noi lo osserviamo dall'angolo di visuale, per esempio, di Bruxelles, cioè di un territorio che è la regione europea da cui partono più jihadisti verso lo Stato islamico, naturalmente nasce all'interno di un complicato percorso psicologico, che è quello della radicalizzazione, no? Cioè di un percorso che parte, come dire, da due punti di riferimento. Corrado, scusi ti interrompo, ma è possibile anche più banalmente, diciamo, a una lettura ancora più sotto, più bassa, di basso profilo, non so come dire, che però ha la sua importanza, è una forma comunque di macismo portata alle estreme conseguenze, questa? È una forma di adesione a un modello che ti dà un'identità. No, quando noi diciamo questi che vanno, perché ci vanno, perché partono? Partono perché in qualche modo loro ottengono, diciamo, una sorta di beneficio tutto e subito, la grandezza tutto e subito. Quindi per certi aspetti potremmo ricondurre questo discorso anche all'aspetto della forza, tant'è che una delle motivazioni che i reclutatori identificano nei reclutati molto spesso è proprio il desiderio della guerra. E quando anche il modo in cui vengono trattate le donne, insomma, se noi... Certo, questa visione assolutamente... aberrante, primordiale, certo. Di soddisfazione di bisogni primari, però anche lì c'è una evoluzione della figura della donna, no? Cioè la donna nel califfato ha tre funzioni principali: fa reclutamento, fa propaganda e poi soprattutto deve garantire tessuto sociale, crescita. La donna è quella che garantisce il disegno in prospettiva. Dopodiché è chiaro che c'è il problema della sessualità vissuta come un premio. Lì non puoi girare se non con i mahar, cioè con i tutori, ci sono questi makkar che sono una sorta di dormitorio in cui si scelgono queste donne nell'ordine agli emiri, agli stranieri e poi a quelli del posto. Quindi. Sicuramente c'è questo aspetto, ma certamente c'è quello che si diceva prima a proposito, come dire, di una visione allargata del macismo. Quando loro fanno vedere quelle immagini in cui sembra che siano dei videogiochi invece vita vera, che cosa dicono? Dicono: quello che tu fai a casa tua su un videogame noi te lo offriamo nella realtà. Quindi uno dei motivi che i reclutatori identificano tra le cause che spingono a partire è proprio quello ludico, cioè quello della percezione della guerra come bisogno da anteporre, il disegno del mito del guerriero in qualche modo, no? Questo è un aspetto che c'è, certamente c'è. C'è Massimo, per esempio, che scrive: io inizierei a mettere, anche se diciamo è una lettura proprio marginale, la questione più complessa, come spiegavi tu, Massimo dice al 349-238-6666, io inizierei a mettere al bando i giochi elettronici, i cosiddetti sparatutto, sarà poca cosa, ma certamente un tarlo che incide sulle menti giovani in formazione, indebolendo il senso della realtà. Diciamo una piccola cosa rispetto alla complessità psicologica e di però di questa risposta, questa frase ci fa fare una riflessione. Cioè, ora noi stiamo leggendo che Bruxelles si blinda, che tutto si ferma. In realtà il problema principale che noi avremo non è soltanto il costo drammatico delle vittime e dei feriti, ma è anche quanto gli attentati di questo tipo si ripercuotono sulla popolazione, cioè sulle vittime indirette, su quelli che c'erano, per esempio, ma che non sono feriti, oppure sulle famiglie. L'unico sistema per far sì che la tenuta sociale dopo gli attentati riesca a reggere, riesca a fare circolare speranza, informazione, è il tentativo di ritorno alla normalità. È chiaro che io capisco la lettura immediata del chiudere i videogame, di bloccare questo e quello, però arriveremo a un discorso che non finisce mai rispetto a questa questione. Corrado De Rosa, rimani ancora qualche istante, sentiamo qualche ascoltatore se magari ha anche delle domande attinenti da fare. Per esempio Paolo da Firenze. Buonasera. Buonasera Paolo. Ma senta, io volevo tornare un attimo indietro e fare una domanda a lei per avere un parere. Io ho sentito purtroppo in queste circostanze drammatiche, come anche in altre, più volte dire ai nostri politici a massimi livelli che il problema grosso è che è impossibile, di fronte alla domanda ma siamo sicuri nel nostro paese, possiamo difendere i nostri figli da certe situazioni, ma è praticamente una certezza al 100%, non c'è una sicurezza, in quanto è praticamente impossibile individuare, per la vastità del territorio, il numero delle persone, individuare questi potenziali terroristi. Chiaro. E siamo d'accordo su questo, giusto? Ecco, secondo me è una falsità enorme, abbia pazienza. Cioè, se noi teniamo presente quello che è scrisse Floriana Fallaci tempo addietro, da quale è uscita fuori una delle verità assolute, e cioè che è vero, non tutti i musulmani sono terroristi, ma di sicuro tutti i terroristi sono musulmani, noi abbiamo già un elemento essenziale, quindi il fatto che siano musulmani, con questo vuol dire tutti, però quelli che fanno certe attentate sono musulmani. In più abbiamo un altro elemento, sono tutti under 30, quindi, e sono la maggior parte maschi. Allora, direi sì, al 98%. Allora, sappiamo che sono musulmani, sappiamo che sono sotto i 30 anni, o comunque giù di lì, e quindi non è che ci va mia nonna a fare un attentato. Sappiamo che sono maschi, ma ora mi sembra che sia abbastanza... Diciamo, degli elementi importanti ci sono, un filo conduttore, Paolo. Monitorare perlomeno certe persone. Quindi non è così vasto il territorio, perché ora io non è che voglio dire che bisogna applicare lo stesso sistema, che la storia ci insegna, che spesso e volentieri si ripete, però c'è stato che tempo addietro, 2000 anni fa, c'era un tizio di nome Erode, che faceva di mestiere. Vabbè, non andiamo troppo indietro, Paolo. Io ti ringrazio intanto. Sentiamo se Corrado De Rosa ha da fare un'osservazione rispetto a quello che dicevi, Corrado. Sì, l'altro elemento che accomuna queste persone è la grande capacità di utilizzare il web. Le tre caratteristiche sono queste: giovane età, maschio, capacità di utilizzare il web, e poi c'è la questione della fede o dell'ideologia, che comunque possiamo sintetizzare nel concetto di sacro, no? Cioè l'idea che ci sono dei tabù che non sono negoziabili. Rispetto agli effetti, anche al sentire delle telefonate, al sentimento comune che io percepisco, quello che viene fuori in modo chiaro è che, come sempre, quando c'è uno scontro tra qualcuno di più forte e qualcuno che oggettivamente ha risorse differenti, alternative, più deboli, eccetera, ovviamente l'obiettivo di quest'ultimo è quello di amplificare l'effetto del suo comportamento. Perciò la guerra diventa fortissimamente psicologica. E quindi qual è l'intento complessivo? Ovviamente l'intento complessivo è quello di determinare insicurezza, riduzione della coesione sociale, la percezione di sentirti indifeso, e quindi sull'onda delle emotività di tentare una risposta che sia di chiusura, che sia di comprensibile desiderio di certezze granitiche. Ma la verità è che ogni volta che noi ci andiamo davanti a qualcosa che in qualche modo ci sembra di non comprendere, cerchiamo certezze, ma non sempre ci riusciamo fino in fondo. Ovviamente questo è un discorso che taglia l'angolo di visuale dal punto di vista psicologico. È chiaro che naturalmente in termini di strategia il discorso cambia radicalmente, però mi riferisco alla insicurezza percepita e quindi alla reazione emotiva rispetto a questa insicurezza percepita, che è esattamente quello che vogliono loro. E questo è l'obiettivo principale, infatti, quando ci si chiede cos'è che vogliono effettivamente, no? Con queste operazioni loro parlano a due interlocutori, parlano alla società, diciamo, di riferimento di cultura islamista, direi, dicendo noi siamo l'unica alternativa credibile all'Occidente, e parlano all'Occidente dicendo, cioè dicendolo oggi, alla luce della settimana che conduce all'arresto di Salah, nella città in cui è arrestato Salah, In qualche modo, se la rivendicazione ISIS è una rivendicazione attendibile, ovviamente la risposta è: noi possiamo colpire dappertutto quando vogliamo noi. Chiaro. C'è poco da... Grazie Corrado De Rosa. Grazie a voi. Grazie, molto prezioso in questa lettura. Poi avremo Said da Firenze, Marco da Torino, Gennaro da Napoli, tutte le altre ascoltatrici e ascoltatori tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il numero verde per le vostre telefonate stasera al 800 24 0024. Noi intanto abbiamo inviato il nostro Sergio Nava a Bruxelles oggi. Sapete che Radio 24 ha seguito da questa mattina in lunghe dirette fino adesso e poi fino a mezzanotte i fatti di Bruxelles, e Sergio è andato personalmente. Sergio, sei atterrato? Sì, ciao Roberta. Sì, sono atterrato. In questo momento mi trovo in viaggio tra Charleroi, che è di fatto l'unico aeroporto rimasto, grosso aeroporto rimasto funzionante qui in Belgio, e Bruxelles, circa 50 minuti di autobus. Sono atterrato da poco. Quello che vi posso raccontare è una aeroporto sostanzialmente militarizzato, quello di Charleroi, l'aeroporto low cost del Belgio. Perché quello che è stato colpito è Zaventem, no? Che è quello principale. Zaventem, esatto, che è invece l'aeroporto principale, l'hub vero e proprio di Bruxelles. Charleroi è notoriamente il hub low cost ed è rimasto fortunatamente aperto per tutta la giornata. C'è molta folla perché chiaramente molte persone hanno dovuto dirottare i loro viaggi su quest'altro aeroporto, perché altrimenti sarebbero finiti in altri paesi europei, ed è un aeroporto soprattutto militarizzato, perché all'uscita il numero di poliziotti militari è molto alto, e anche all'ingresso, in ingresso e in uscita, le auto vengono controllate. C'è un checkpoint proprio al di fuori dell'aeroporto di Charleroi, dove chiunque entra o esca viene controllato dalla polizia. Quindi chiaramente non c'è un sentimento di grande tensione, però c'è un'allerta massima. Un esempio molto banale è sull'autobus che si sta portando verso Bruxelles: è stato vietato oggi portare bagagli, anche piccoli, semplicemente borse o borsette. Li abbiamo dovuti stivare nell'autobus e non portare a bordo, perché per misure di sicurezza, per precauzione chiaramente. Sergio, e per il resto tu adesso, vabbè, stavi dicendo che stai viaggiando, andrai in un albergo, stai viaggiando con delle persone, hai parlato con qualcuno? Sono di fatto appena arrivato, non c'è moltissima gente sull'autobus, devo dire che la maggior parte delle persone aveva un'auto, comunque hanno noleggiato un'auto, sull'autobus non c'è moltissima. Quello posso dire, generalmente ho notato una certa, come dire... come dicevo prima, allerta, però non una paura. Non anche il clima, diciamo, sull'aereo era tutto sommato abbastanza rilassato, non c'era. Però è chiaro che anche in Italia, sull'aereo che diciamo, da Bergamo, prima di salire sull'aereo è salito, prima che noi salissimo sull'aereo, è salito un poliziotto. Poi eri ripeso, a quel punto siamo potuti salire sull'aereo per il Belgio, quindi chiaro che l'allerta è altissima. Non vi posso ancora dire chiaramente la residenza a Bruxelles città, perché ma ce lo dirai nei prossimi giorni, Sergio, perché tu rimarrai lì diversi giorni, quindi ti auguro una buona permanenza, anche di poter fare al meglio e più tranquillamente il tuo lavoro. Grazie Sergio Nava. Grazie. Intanto ciao, buonanotte Sergio. Ancora i vostri messaggi, ma prima di tutto le vostre telefonate all'800 24 0024, numero verde in questa serata speciale di Effetto Notte, una lunga diretta dalle 21 a mezzanotte. Questa sera di solito ci sentiamo dalle 21 alle 22, ma una lunga diretta lunghissima che Radio 24 ha cominciato proprio questa mattina, appena dopo gli attentati. Said da Firenze. Said. Sì, buonasera. Buonasera. Allora, io insomma non ho tante cose da dire, intanto a parte le condoglianze, insomma, per il popolo di Belgio e poi per tutti noi, perché è una tragedia per tutti gli residenti, insomma, in Europa. Il discorso sta così, dal mio punto di vista, che questi ragazzi o questi delinquenti, chiamiamoli, sono persone che non sono né carne né pesce, sono figli di seconda, terza generazione che sono qua, con una politica sbagliata europea, quella di Le Banlieue, dove c'è una concentrazione praticamente di popolazione immigrata. Le banlieue, cioè le periferie, per chi non sapesse, dalla Francia, da Parigi, si chiamano così. Per fortuna in Italia non abbiamo questo problema. Said, posso chiederti di quali sono le tue origini, visto il nome? Sono marocchino, di Casablanca, sì? Da 30 anni qua, con tre figli, che ben integrati, tutto a posto, insomma. Quindi vivi bene, vivi bene tu e la tua famiglia qui in Italia, ormai siete italiani da tanti anni. Sì. Non è questa la questione, insomma. Io personalmente, perché sono di origine marocchina, non mi sentirò mai al 100% italiano, perché sono nato con una cultura, eccetera, eccetera, ci sono tanti sedimenti. Però giustamente la seconda generazione, che sono i miei figli, non sanno assolutamente niente di Marocco, dello stato di Marocchino, né niente. Però il problema qual è? Che la seconda generazione e la terza generazione, specialmente in questi posti qua come la Francia e anche il Belgio, sono concentrati in posti limitati, trattati come ghettizzati, come se si formassero delle comunità un po' marginali. Ecco, di seconda categoria. C'è qualcuno che sfonda, per carità di Dio, qualcuno che è diventato anche ministro di Francia o qualche cosa, però la maggior parte sono dei ragazzi che sono disoccupati, eccetera, eccetera. E l'aria che ti tira la prendono. Io dal mio punto di vista, molto semplicemente, voglio dire che non c'entra assolutamente nulla la religione. Io faccio un lavoro particolare. Tu sei credente? Sì, sono credente, non sono ortodosso, giustamente, come sono credente pratico, ma anzi dico di più. Sei musulmano? Sei musulmano? Sì, sono musulmano al 100%. Dico di più che sono, insomma, lavoro in una ditta che porto via i marocchini, tutti gli islamici, insomma, tra virgolette, all'estero, quelli morti. No, non ho capito bene che cosa allora, fa la tua azienda. Il rimpatrio delle salme all'estero. Ah, il rimpatrio delle salme all'estero. All'estero. Solo quelli islamici. Siamo in due in Italia a fare questo lavoro. Ah sì? Sì, siamo in due. C'è uno a Padova e siamo noi a Firenze. Allora, quello che succede e quello che si nota è che abbiamo una grandissima mortalità di suicidi, di overdose, di coltellati, eccetera, eccetera, tra questi ragazzi qua da 20 fino a 30 anni. Sono quasi il 70%, anche l'80%. Allora, sono ragazzi nati qua. Magari il padre gli canta due cose che sono diverse da quelle che trova nella società. La madre si separa o chiedono, e si trovano questi ragazzi spaesati, non sanno più che fare. C'è quello che si butta sulle droghe, c'è quello che si suicida, c'è quello che, capito? Quindi non c'è un'attenzione verso questa generazione. È chiaro, sei stato chiarissimo, Said, e ti ringrazio per la tua telefonata, per il tuo contributo. Ci sarebbe più tempo e avrei fatto andare ancora avanti Said, ma ci sono anche, per esempio, Gennaro da Napoli, Marco da Torino, Osvaldo da Milano. Gennaro da Napoli. Buonasera. Buonasera, Gennaro. Senta, io ho la sensazione che tutta l'Europa si trasformerà come sono stati i Balcani per 500 anni. Cioè ci aspetta un futuro di stragi. Le guerre sono sempre crudeli, la maggior parte delle vittime delle guerre sono sempre innocenti. Tutti quelli che sono morti finora in tutti gli attentati erano degli innocenti. Dobbiamo rassegnarci al fatto che come gli americani bombardavano città italiane, come le città tedesche per liberarci dalle dittature, noi dobbiamo cominciare a difenderci, abbiamo il dovere di difenderci, abbiamo delle famiglie, abbiamo dei figli, abbiamo una civiltà, abbiamo una cultura da difendere. A questo punto purtroppo bisogna cominciare a fare occhio per occhio. Israele esiste perché fa occhio per occhio, 6 milioni contro 600 milioni, noi dobbiamo fare la stessa cosa, qui è sopravvivenza, non è più un problema etico o culturale, purtroppo non abbiamo altra soluzione. Grazie Gennaro, prima spiegava Gianandrea Gagliani, esperto di difesa, di armamenti, di intelligence, che in realtà basterebbe la volontà di molti paesi di intervenire in modo opportuno, per esempio in Libia. Non lo so che decisioni prenderanno prossimamente, mi pare che finora insomma non siano state prese grandi decisioni in merito da parte degli stati europei e non solo, si diceva che anche gli stessi Stati Uniti hanno fatto una politica e un tipo di intervento molto, come si può dire, molto timido, di basso profilo, sia in Siria sia in Libia, probabilmente non molto interessati in questo momento, no? E anche per non scontentare, qualcuno dice, l'Arabia Saudita. Insomma, i vincoli, gli interessi sono molto complessi da da spiegare, da capire, anche se naturalmente poi gli analisti poi ce lo spiegano in modo piuttosto lucido. Ci colleghiamo ancora una volta con Maura Bertanzon a Bruxelles. Maura, buonasera. Una lunga giornata anche per te. Prima eri in una delle piazze principali di Bruxelles, dove si sono riunite tante persone per cercare, no, di far sentire la loro voglia di ritornare il prima possibile alla normalità, di sentirsi unite, di dimostrare solidarietà, unità. Adesso dove sei, Maura? Cioè, quali sono le novità? Ci sono delle novità rispetto a quando ci siamo sentite prima? Ma le novità cominciano a filtrare su quello che succederà domani, perché è arrivata la notizia che domani riaprirà comunque anche la linea del metro che è stata oggetto dell'attentato a Malbec. Quindi la voglia di tornare subito a riprendere la vita quotidiana. Non aprirà per intero, sarà appunto chiuso il tratto che comprende la stazione di Malbec e anche quella di Schumann, cioè ci sarà una fascia a cuscinetto che sarà poi servita dagli autobus, però vedevo anche le notizie sui vari comuni di Bruxelles, tutti confermano che tutto domani sarà aperto, funzionerà, magari qualche comune ha deciso di sospendere il mercato rionale o di chiudere la piscina oppure di pattugliare le scuole, però tutto sarà aperto e gli stessi cittadini anche intervistati in queste ore dicevano sì, domani andremo al lavoro, quindi tutti confermano la voglia comunque di reagire subito con prontezza. Maura, ma sono stati confermati 3 giorni di lutto da partire da domani? Bruxelles? Sono stati confermati e lo ha rimarcato anche il re nel messaggio che ha voluto trasmettere verso le 7 di sera. Dice, ha detto, è un giorno che non potremo dimenticare mai, e nelle sue parole si sono riflessi veramente tutti i cittadini. L'altra cosa che succederà domani, a cui si accenna comunque già in queste ore, è l'identificazione dei feriti. Gli ospedali di Bruxelles, i maggiori sono 3, il Saint-Pierre, il Saint-Luc e l'ospedale di Erasmus, sono già in allerta e quindi sarà anche un po' da capire come si svolgerà la situazione per quanto riguarda le persone che sono state ferite negli attentati. Che sono moltissime, sentivamo anche in modo particolarmente grave alcune. Maura Bertanzon, io ti ringrazio per il tuo lavoro e poi ci sentiremo inevitabilmente nei prossimi giorni. Allora, grazie da Bruxelles. Buona serata a ciao voi. Maura, ciao. Buon lavoro. Ancora un sacco di vostre telefonate al numero verde 800 24 00 24. Abbiamo ancora una ventina di minuti più o meno, quindi cerchiamo di essere sintetici possibilmente. Orazio da Messina? Sì, ciao, buonasera. Buonasera Orazio, prego. Allora, la mia riflessione, al di là della retorica che è di prassi in queste occasioni, è stato arrestato Salah Abdeslam dopo 5 mesi di ricerche ed è stato trovato nello stesso quartiere da dove proveniva. Questo l'abbiamo detto. Dopo 48 ore un attentato nella città dove è assodato che sia presente una cellula dell'ISIS. Quindi, al di là, con tutto il rispetto per il lavoro dei servizi segreti internazionali, c'è qualcosa che non funziona se con questa facilità viene fatto un attentato nell'aeroporto principale della capitale europea. Cioè è una dinamica che non si può spiegare, che non si può accettare. Cioè, una cosa del genere per la popolazione non è rassicurante. È difficile da capire, infatti, Orazio. Prima leggevo quell'agenzia, vediamo se la ritrovo, del ministro belga che diceva sì, ci aspettavamo un attentato in Europa, ma non pensavamo di queste dimensioni. Ecco, vediamo se lo ritrovo. Il ministro dell'interno belga, Jean Jambon, che ha detto che stasera che le autorità sapevano qualche attacco terroristico, ma siamo rimasti sorpresi dalle dimensioni di questi attacchi. Effettivamente era una città che bisogna immaginare abbastanza nel mirino, dove si erano rifugiati i terroristi che erano sfuggiti, in particolare Salah Abdeslam, agli attentati di Parigi, e lui ha continuato, come si diceva, evidentemente a stare lì tranquillo, anche se qualcuno dice non si sa, se invece sia riuscito e poi rientrato, questo sarebbe ancora peggiore, perché evidentemente non è stato controllato neanche ai confini o quando all'aeroporto, non so, come se certamente non è andato in nave, insomma, se è tornato in Siria o dove. E però, che dire, evidentemente... Non sono non sono abbastanza pronte le forze di sicurezza e l'intelligence in Belgio. Continuiamo a dire anche di questa intelligence unica che deve essere creata, che i rapporti di collaborazione rafforzati. Effettivamente, diciamo, forse l'aeroporto, che è sicuramente un luogo sensibilissimo, e proprio poi della capitale europea, che è Bruxelles, poteva essere controllato meglio, anche se prima un esperto di difesa come Gaiani ci diceva è in realtà un po' difficile riuscire a perquisire persona per persona quando non sei oltre il check-in, ma sei prima in spazi comuni dove però forse qualche controllo in più. Che dire, non so, Angelo da Torino. Sì, buonasera. Buonasera. Grazie, Angelo, per avermi chiamato. E io facevo questo pensiero. Sì. Noi cerchiamo di combattere contro questi pazzi, li chiamo pazzi io, più che persone invasate, ma sappiamo che c'è una testa che li gestisce, sappiamo dov'è, sappiamo che li coordinano dal loro stato islamico, non abbiamo mai pensato di intervenire lì, di tagliare la testa di questa gente. Ma Angelo, prima la si diceva questa cosa e qualcuno ritiene che sia difficile riuscire a, per esempio al Baghdadi si parla di lui, e qualcun altro, come anche appunto Gaiani, diceva in realtà se ci fosse la volontà si colpirebbe in modo mirato, e se ci fosse la volontà veramente di combattere l'ISIS, solo che più volte abbiamo ripetuto, poi vediamo se c'è tempo anche di far risentire l'analisi di Alberto Negri, che molti hanno apprezzato, per quante connivenze e complicità ci sono a livello internazionale. Abbiamo Davide da Ravenna? Sì, da Faenza. Da Faenza, più precisamente, bene, sempre dall'Emilia Romagna comunque, prego Davide. Sempre dall'Emilia, dalla Romagna, diciamo. Romagna. Certo, dalla Romagna. So che ci tenete, insomma, queste separazioni tra Emilia e Romagna. Basta che siano così simpaticamente sottolineate. Prego, Davide. Assolutamente. Io riflettevo sul fatto che si può inquadrare questa questione in una guerra, tutto sommato. Autorevoli esperti a volte lo ribadiscono, una guerra asimmetrica, ma pur sempre una guerra. Bene. Se noi siamo in guerra, si può ben dire che ad oggi noi come Occidente, diciamo così, contro l'estremismo islamico, che lo possiamo identificare in questo momento con l'ISIS, magari più precisamente, siamo nettamente in vantaggio. In vantaggio? Il mondo è uno, quindi potremmo avere anche una visione globale. Se abbiamo una visione globale, bisogna mettere senz'altro con dispiacere, con dolore, con pena e con identificazione i 30 morti oggi che ci sono stati in Belgio, assolutamente. E io mi metto da questa parte, dalla parte europea, dalla parte dell'Occidente, però bisogna mettere anche quelli che stanno sotto le bombe in Siria, e tanti civili, e tanti non sono dello Stato Islamico, come tutti gli interventi che abbiamo fatto nel bene e anche nel male, con le nostre ragioni e anche senza ragione in quelle parti del mondo. E se mettiamo sulla bilancia, due piatti della bilancia, i danni e le vittime. No, su questo hai ragione, Davide. Vedo anche un WhatsApp di Luca da Milano che dice: questo doppio pesismo, migliaia di morti civili in Iraq, in Libia, in Afghanistan, indifferenza pura, un civile innocente è lo stesso in tutto il mondo? No, siamo andati in Libia, c'era Gheddafi che ci ricattava, ora non c'è più, abbiamo contribuito a creare il caos in quel paese. Questo è vero, anche se penso, Davide, che certamente quelli dell'ISIS non stanno vendicando i poveri civili dell'Afghanistan, della Libia, dell'Iraq, e poi naturalmente noi come Occidente, l'abbiamo detto anche prima, ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità. Grazie. Mirella da Genova. Ah, buonasera. Buonasera Mirella. A tutti i maschi, tutti i uomini che chiamano. E le donne ascoltano e preferiscono ascoltare spesso. È male. Hai fatto bene. Roberta, male. Sono contenta. Io volevo dire. Dimmi. Sì, grazie. Io volevo dire, ma ci dimentichiamo le nostre colpe? Cioè, 20 anni fa che cosa abbiamo fatto? abbiamo destabilizzato l'Iraq e queste sono le conseguenze. Scusate, non è che possiamo girarci intorno, eh? A chi fa comodo questa situazione? A chi fa comodo? Poniamoci questa domanda, chi fa comodo questa situazione? Questo terrore, chi fa comodo? Ecco, una domanda che ci dovremmo porre, poi ognuno dà la propria risposta, però voglio dire... Prima si diceva, Mirella, che anche per esempio in Libia, con i vari paesi che sono intervenuti, ognuno aveva degli interessi diversi e voleva far vincere una fazione anziché l'altra, e così poi in Siria, anche tutto quello che è stato combinato col promettere prima ai terroristi islamici se abbattevano Assad, evidentemente avrebbero poi avuto qualcosa, invece poi la promessa è svanita. Insomma, giustamente Mirella è colto nel segno e qui a Effetto Notte ne abbiamo, diciamo, parlato in più punti. Poi c'è Osvaldo da Milano. Sì, buonanotte Roberta. Buonanotte Osvaldo. Senti, io volevo dire una cosa sola. Sì. Considerando il fatto che i terroristi, quelli noti, quelli ricercati, poi scopriamo che vivono nelle loro case, no? Nei quartieri delle nostre città, un po' come facevano i mafiosi protetti dall'omertà dei paesi. No? Come diceva Gentiloni, il terrorista della porta accanto oggi. Esatto. Allora, però io mi stupisco un po' del fatto che, ad esempio, quando qui in Lombardia, no, è stata fatta quella legge regionale contro il niqab e l'altro, lì, il vestito delle donne, il burka. Sì. No? Che si diceva che appunto non possono usarlo nei luoghi pubblici come gli ospedali, gli uffici, così, e c'è stata una levata di scudi, tutti che hanno gridato allo scandalo, eccetera. Ma allora decidiamoci, o li nascondiamo oppure gli diciamo di venire allo scoperto, perché, cioè, ad esempio io che sono un tassista, no? Se adesso mi sale su un individuo col burka e mi chiede di andare, che ne so, a Torino, no? Ma io lo so se sto aiutando un terrorista a fuggire, non dico a fare una strage, ma semplicemente a fuggire, perché lo stanno ricercando. Questo qui va in giro bello tranquillo, tutto coperto, nessuno lo può fermare, perché sennò la gente grida lo scandalo, ah, la loro religione, lasciamoli stare, hanno il diritto di viaggiare così. Ma allora, Osvaldo, scusate, lasciamoli nascosti, rimani, non cerchiamoli. No, rimani, no, ti dirò che in realtà è difficile che un ricercato terrorista si bardi in quel modo, perché viene notato a maggior ragione. Però sono d'accordo sul fatto di principio di una cultura come la nostra, in cui devono essere rispettate determinate regole. Cioè, si può essere diversi e basarsi sui propri valori, però nella cornice di leggi, regole e norme che devono valere per tutti, italiani e stranieri, e così anche negli altri paesi. Per cui io ritengo che, per quanto riguarda appunto la dignità, la parità delle donne, non si può permettere che nel nostro paese venga importata una cultura che sia appunto di sopraffazione, di mortificazione del femminile. Grazie Osvaldo. C'è Gabriele d'Arezzo. Sì, salve, salve, buonasera, grazie per avermi fatto partecipare alla trasmissione. Grazie a te. Un punto, volevo tornare da un punto di vista maggiormente sociologico per quanto riguarda l'identità dei terroristi. E credo che poi in realtà noi come Europa, per essere frutto, siamo finiti per diventare nulla. Quindi diciamo che l'idealismo islamista è finito un po' per insinuarsi in questo vuoto, e poi d'altronde sono fatti immigrati di seconda, terza generazione che poi vengono maggiormente colpiti. Quindi ecco, dovremmo guardare magari in casa nostra e riprendere quella famosa identità europea che ormai è sulla bocca di tutti, ma che poi in termini concreti non si realizza mai. Poi secondo punto, velocissimo, sì, visto che siamo in chiusura, dal punto di vista invece economico e strategico anche proprio dell'ISIS, che non definirei Stato, perché poi già dargli un riconoscimento, ecco. Certo, così si dà troppa dignità. Il sedicente è Stato Islamico, ecco, se proprio esatto, si vuol dire. È proprio quello che vogliono, cioè nel senso, alla fine io credo che poi nei prossimi anni si vedrà una statalizzazione poi di questo movimento, quindi chiederanno anche loro di essere stati, di essere riconosciuti come Stato Islamico. Però questo sicuramente è questo è il loro obiettivo, speriamo che sia solo un orizzonte funesto che non si realizzi. Grazie Gabriele. C'è Marco da Torino. Pronto, buonasera. Buonasera, grazie Marco. Dello spazio, Roberta. Grazie a te della pazienza. Ma ci mancherebbe. Personalmente io sono persuaso di tre aspetti fondamentali. Il primo è che sia impossibile difenderci in casa nostra da persone che sono già al di qua dei nostri confini. Non possiamo mettere check-in e metal detector ovunque, quindi negli aeroporti, nelle stazioni, durante i concerti o in mezzo alla strada. Il secondo aspetto è quello che queste persone, che la causa sia il disagio piuttosto che una mente ottenebrata, cui è stato fatto un lavaggio del cervello, in ogni caso sono menti deboli, convinte di ottenere, come ha detto qualcuno che è intervenuto un po' di tempo fa, di ottenere le 12 vergini nel paradiso, seminando morte e uccidendosi in nome della religione. Il terzo aspetto è che all'opinione pubblica, a tutta l'opinione pubblica mi sembra sia evidente che o tutti considerino un po' blando l'atteggiamento, comunque la presa di posizione del mondo musulmano. Allora mi chiedo come mai non si voglia fare una campagna tipo quella del pubblicità progresso, io sono un fumatore, mi sento esatto, io mi sento dare lo scemo da Nino Frassica tutti i giorni perché fumo, ecco, alla stessa maniera mi piacerebbe vedere i più eminenti rappresentanti del mondo islamico, degli imam, che in televisione facciano degli spot in cui in italiano sottotitolato in arabo e in arabo sottotitolato in italiano dicano: non è vero che seminando morte e uccidendosi si conquista il paradiso, bensì la dannazione eterna. Ecco, io credo che possa anche questo sortire qualche effetto. Sì, è una piccola cosa, Marco, no? Ma mi sembra intelligente, anche perché citavo all'inizio una pubblicità progresso che forse fanno soltanto in una regione in Italia, ma è passata in televisione una volta brevemente, proprio di educazione alla parità, anche proprio nella cultura islamica, tra i due generi, maschile e femminile. Grazie Marco per questa sollecitazione, e poi sentirei Antonio da Milano. Sì, buonasera. Buonasera Antonio. Buonasera, io avevo voglia di condividere la mia riflessione che condividiamo, Antonio. Vertiva più che altro su un carattere culturale ed economico. Culturale perché a questi ragazzi, che come abbiamo detto e come si è ripetuto, sono ragazzi 20, che sono compresi nella fascia d'età tra i 20 e i 30 anni e che sono assolutamente cittadini europei, che sono nati e vissuti in mezzo a noi e hanno assorbito totalmente la nostra cultura. A questi ragazzi la nostra società non ha saputo offrire una realizzazione. Questo causato soprattutto anche dalla crisi economica che c'è stata, perché nel momento in cui è venuto a mancare il sostegno economico, lo splendore degli anni 90 e dell'inizio degli anni 2000, le prime persone a subire, diciamo, un'emarginazione, no? A sentire di non avere più la possibilità di far qualcosa di meglio dei loro genitori sono stati proprio loro, ancor più di noi italiani. Io sono un ragazzo di 30 anni e vivo come tanti il disagio della disoccupazione, della difficoltà di trovare lavoro, e a volte purtroppo il radicalismo offerto da questi soggetti islamici è un'alternativa che per loro sembra valida. Antonio, diciamo che in certi casi può esserci questa lettura sociologica, no? Però per altri rischia di essere una giustificazione, nel senso che è vero, ci sono le balliose, si parlava delle periferie, della marginalità, no, di molti di loro di seconda, terza generazione, ma mi viene in mente Jihad Dijon, ti ricordi, quel primo che ha cominciato a far vedere i vari video di sgozzamenti di occidentali, che era un britannico anche di buona famiglia, e così ce ne sono anche altri, anche istruiti. Diciamo, è un fenomeno sicuramente più complesso, se ne parlava prima con Corrado De Rosa. In parte è vero quello che dici, ma non direi che copre completamente la questione. Grazie, forse abbiamo sì ancora un po' di spazio. Giorgio da Caserta? Sì, buonasera. Buonasera Giorgio. No, brevemente, io invece mi ricollego a chi mi ha preceduto, perché oggi infatti ho sentito tantissime trasmissioni, stando molto in macchina, però ho sentito parlare poco del perché siamo stati scelti noi europei intendo, come obiettivo. Tutto è partito dall'obiettivo più grosso, che era l'America, no? Sì. Poi l'America ha reagito, adesso vengono in Europa e quando vogliono praticamente ci stanno dimostrando che ci gettano nel terrone. Però, perché i paesi europei, per esempio la Francia intesa, sono intervenuti anche in vari scenari di guerra. Sì, però io ho creduto, almeno alla mia età, io sono di quelli della generazione che credeva effettivamente nell'Europa unita, però questa Europa unita non funziona più, soprattutto da quando abbiamo messo una banca, praticamente un amministratore, a governarci. L'amministratore non ha degli obiettivi di crescita, ha solo obiettivi relativi appunto alla contabilità, e questo si vede. Cioè, la qualità della vita delle generazioni successive sicuramente sarà molto più povera di quella che è stata la mia, ma questo è perché non c'è più un progetto comune che possiamo condividere. questo secondo me chi ci vuole attaccare, chi ci prende come obiettivo lo sa benissimo, e sa benissimo che siamo facilmente permeabili, perché siamo divisi, cioè stiamo tornando indietro, e questo secondo me è una riflessione che dovrebbe partire appunto da noi e cercare di capire che invece, perché è veramente brutto, è triste quando si sentono tante persone, io cerco di comprenderlo, però dire no, buttiamoli tutti quanti a mare, cacciamoli tutti quanti via. Che cacci via? Uno che sta alla seconda generazione, terza generazione, è cresciuto come te, è ovvio che non può più farlo, no? Quindi oramai quello è un progetto che non si può più realizzare. Mm. Cerchiamo di guardare in un'altra direzione, però mi sembra che anche i media, anche voi, come dire, io capisco che sicuramente dopo questi eventi il primo sentimento è la reazione, no? Però poi di fatto non c'è nessuna reazione, non lo sappiamo, fra una settimana chi parlerà più di questo? Sì, è così purtroppo, Giorgio, ma al di là di media, diciamo, di chi deve gestire queste cose in senso politico, perché giornalisti fino a un certo punto. Eyal da Milano. Sì. Buonasera, Eyal. Buonasera, sono israeliano. Riesci a essere sintetico, grazie. Sì, sono israeliano, sì. Sono da tantissimi anni in Italia, ma tengo sempre un contatto continuo con Israele. Sì. E secondo me bisogna imparare da quello che succede in Israele, perché Israele è una democrazia occidentale che è già da 70 anni che subisce a ondate questo tipo di terrorismo, e nonostante questo è riuscita a mantenere un alto livello di democrazia. Fate conto che in Israele ci sono 20% di arabi israeliani che sono musulmani, che sono palestinesi, con cui conviviamo in maniera abbastanza pacifica, abbastanza con una strettissima collaborazione, per cui è possibile farlo. Il problema è che l'Europa non è più abituata alle guerre, l'Europa è un gigante flaccido, senza muscoli ormai, con troppi anni senza guerra sul suolo europeo ha fatto perdere l'anticorpi degli europei, per cui può essere una lettura. Io non so se è proprio così, se ci sia bisogno di guerre per creare gli anticorpi. Comunque ti ringrazio, penso che siamo ormai verso la fine, non so se Alberto da Teramo ha proprio 23 secondi. Alberto, riesci? Eccomi, in 23 secondi sintetizzare? Un quesito solamente a tutta Italia, a tutto il mondo. Sentiamo. Se è questo quello che ci meritiamo, cioè parliamo di un terrorista che è il miglior avvocato del Belgio. Punto interrogativo, è normale? Beh, diciamo che all'avvocato questo sicuramente darà una certa risonanza, una certa fama, probabilmente è stata questa anche la scelta. Grazie Alberto, direi che possiamo salutarci a questo punto. Io vi ringrazio per il vostro ascolto paziente, per i vostri messaggi, per le vostre telefonate, ringrazio Cristian Goldoni, la parte tecnica Andrea Roccabella, poi noi ci continuiamo a risentire nelle prossime sere, normalmente diciamo, si può tornare minimamente almeno alla normalità, come sempre effetto notte dalle 21 alle 22. A questo punto, mentre sentiamo l'inno belga sotto come omaggio al popolo belga, io direi che possiamo salutarci. Roberta Giordano quindi vi dà una buonanotte.